molto ampio. Il problema cioè della provvista dei benefici nel rapporto tra papato e stati italiani tra 400 e 500. Il titolo è molto ampio, la ricerca ahimè non è abbastanza approfondita, io mi riprometto di fare un'introduzione sui problemi connessi con la questione dei benefici e sarei grato però agli amici che sono qui presenti e numerosi che hanno lavorato su questi argomenti se poi portassero dati freschi della loro ricerca. In maniera particolare vorrei che Roberto Bizzocchi e Gabriella Zarri parlassero di loro sondaggi specifici che mi sembrano molto interessanti, di cui abbiamo parlato in privato durante il convegno e che vorrei che venissero presentati. Dunque, per quanto riguarda la pratica della provvista dei benefici, tutti sanno che la letteratura 4-500esca, i memoriali di riforma, le fonti narrative dell'epoca insistono con toni di accusa spesso molto duri sugli abusi connessi alla provvista dei benefici. Siamo cioè di fronte alla denuncia di un abuso, di quello che veniva definito un abuso. E questa denuncia è concorde da tutti i lati da cui si levano richieste di riforma, da Lutero come dalla parte della cosiddetta riforma cattolica o riforma tridentina. Ecco, vorrei porre prima il problema se noi sappiamo che la riforma non è nata dagli abusi, si è discusso e si continua a studiare la storia della riforma cattolica o riforma tridentina come riforma che agisce sul terreno degli abusi, vorrei porre il problema se questo era un abuso, se questo è un modo corretto e per noi utile di affrontare il problema. Noi sappiamo con quanta violenza Lutero abbia polemizzato contro la Curia Romana. Alimentando proteste che erano già vive e diffuse e non solo in Germania, ma soprattutto in Germania, Lutero additò gli ambienti ecclesiastici romani, la Curia Romana, alla detestazione collettiva, parlando della Curia come di una specie di organismo tentacolare fatto di italiani avidi, ignoranti, che sfruttavano senza ritegno i buoni cristiani di Germania, facendoli accorrere agli uffici romani per inezie e sottraendo loro i benefici ecclesiastici della loro terra. E tuttavia non era solo in Germania, dicevo, che si diffondevano queste accuse, trovavano credito, e sarebbe facile comporre un florilegio piuttosto ampio di citazioni di questo tipo per dimostrare quanto diffusamente si vedessero le cose in questi termini. Ronsard, il famoso poeta francese, parlò dell'avare italien, accusando appunto Roma e gli avari italiani, gli avidi italiani, di saccheggiare benefici e rendite ecclesiastiche valendosi dei poteri acquisiti dal papato e dalla curia. Ora, se la riforma ha inventato la battaglia ideologica di tipo moderno, come è stato sostenuto in un libro recente, la polemica antiromana e anti-italiana sui benefici ecclesiastici dette certamente voce ad un vigoroso nazionalismo. Non mancarono, va detto, fin da allora tentativi di risposta e argomenti portati a difesa da Roma e dalla Curia, e vennero non solo da italiani, come si potrebbe pensare, ma anche da uomini di altre nazionalità che avevano portato valori cosmopolitici in questa discussione. Tuttavia i loro argomenti, gli argomenti a difesa, tendono indirettamente a confermare le accuse. Quando per esempio il pittore Francisco de Holanda nega di essere andato a Roma per sfruttare le particolari occasioni che lì si avevano di ottenere benefici, presenta in fondo il suo caso come un'eccezione rispetto ad una tendenza generale. Lo spagnolo Juan Ginés de Sepúlveda volle replicare alle accuse di Lutero e sostenne che Roma, ben lungi dall'accogliere schiere di postulanti italiani di ogni tipo per depredare la cristianità, era piuttosto la meta a cui affluivano da ogni parte d'Europa uomini dotti, uomini ben preparati, che vi trovavano protezioni e possibilità di impiego al servizio della Chiesa. Ora, testimonianze di questo tipo, se rintuzzavano le punte polemiche di tipo nazionalistico, confermano tuttavia ciò che del resto era ben difficile negare, cioè l'attrazione esercitata da Roma, un'attrazione legata al potere del papato, alla ricchezza che si poteva ottenere in curia. E questo potere e questa ricchezza discendevano in buona misura dagli uffici, dai benefici ecclesiastici che a Roma si conferiva. Accanto all'accusa di sapore nazionalistico che non era giusto far spendere in Roma agli avidi italiani le rendite di benefici tedeschi o francesi, c'era l'altra, più propriamente religiosa, che suonava più o meno così. I benefici ecclesiastici si conferiscono a cortigiani, a uomini di curia, non preparati ai doveri dell'ufficio religioso e comunque non intenzionati a esercitarlo. E così le pecorelle cristiane pagavano le spese del commercio di cose sacre che pastori mercenari facevano sulla loro testa. In questi termini l'accusa era molto antica, tanto da far pensare che Lutero e i suoi sfondassero una porta aperta, anzi talmente aperta che proprio dall'altra parte della barricata, dall'interno di quelle muraglie di cui, secondo Lutero, il corpo ecclesiastico si era cinto, giungevano ammissioni molto importanti. Una delle più celebri, che già allora circolarono a titolo di prova anche in area riformata, si trova nel celebre Concilium de Emendanda Ecclesia. Secondo i prelati che lo sottoscrissero, all'origine di molti abusi che corrompevano la vita della Chiesa c'era la dottrina secondo la quale il Papa era Dominus Omnium Beneficiorum e quindi era autorizzato a disporre liberamente di tutti i benefici ecclesiastici, e questa dottrina finiva col rendere impossibile anche l'accusa più temuta, quella di simonia. Si osservava infatti che poiché il padrone può vendere ciò che è suo, il Papa non incorre nel delitto di simonia se fa commercio di benefici, se vende benefici. In tal modo, notava il Concilium, veniva meno ogni possibilità di stabilire e di rispettare i criteri oggettivi di merito per il conferimento dei benefici. C'era dunque una concordia piena, a quanto pare, nell'individuare nella dottrina canonistica che voleva il Papa Dominus Beneficiorum e nella pratica connessa la radice di molti problemi della vita religiosa del tempo. Da questo riconoscimento prese anche l'avvio, in campo cattolico, quella modificazione profonda nella concezione del beneficio ecclesiastico che portò a mettere in primo piano non più l'aspetto di tipo, diremmo, privatistico, di bene che può essere commerciato, ma quello dei doveri connessi verso la comunità dei fedeli. Insomma, se è vero che la riforma protestante non nasce dagli abusi, è anche vero che la riforma cattolica o tridentina, che dir si voglia, si caratterizza proprio con la denuncia di un abuso, con la denuncia come abuso di una pratica e di una dottrina canonistica fino ad allora dominanti nella Chiesa. Ora, c'era voluta insomma la scossa della riforma perché nel cuore stesso della curia uomini che avevano avuto e continuavano ad avere responsabilità dirette nella compravendita dei benefici mettessero sotto accusa la dottrina canonistica molto ben consolidata su cui quella pratica poggiava. Ecco, ma era poi vero che si trattava di un abuso? Bastava cioè una dottrina a creare degli abusi o era qualcosa d'altro, radicato nella vita stessa della società, a permettere il trionfo di quella dottrina e della pratica connessa? Se dobbiamo abbandonare, come mi pare sia la premessa di questo seminario, se dobbiamo abbandonare una visione drammatica e teleologica della storia culminante nella riforma protestante o nella riforma cattolica, dobbiamo anche, mi pare, andare al di là delle rappresentazioni offerte dai contemporanei e vedere i processi più lunghi e profondi che si erano avviati. Fin dall'inizio, la questione aveva avuto due aspetti complementari. All'interno, una questione astrusa forse, ma non controversa di diritto canonico, all'esterno invece questione controversa nei rapporti di forza tra il papato e i titolari dei poteri politici degli Stati europei. È su questa distinzione che vorrei far leva, perché è a questo secondo aspetto, all'aspetto dei rapporti di forza, che si era prestata fin dall'inizio e mi pare si deve prestare ora maggiore attenzione, come quello sostanziale, dove cioè il diritto teorico trovava, o meglio si scavava faticosamente, i suoi connotati reali. Quanto alla questione se di abuso si possa parlare, va ricordato che uno dei firmatari del Consilium de Emendanda Ecclesia poteva disporre dei benefici ecclesiastici nella sua diocesi, alludo a Gian Matteo Giberti, vescovo di Verona, poteva disporre dei benefici ecclesiastici nella sua diocesi proprio in grazia di un privilegio particolare concessogli come delegatus sedis apostolici. Quindi la dottrina che consentiva al Papa di disporre dei benefici valeva in questo caso per un'azione che era un'azione intenzionalmente carica di propositi riformatori e valutata come azione di riforma anche dagli storici. E successivamente, nel corso del secolo, un uomo come Carlo Borromeo innovò la prassi del conferimento dei benefici nella sua archidiocesi milanese sulla stessa base giuridica, quindi la dottrina del Dominus Beneficiorum valeva non più come radice degli abusi, ma come radice della riforma, e questo mi pare un dato indubbio. Quindi, abbandonando il problema se di abuso si tratti, abbandonando la pista della denuncia degli abusi, abbandonando la tradizione della polemica dei riformatori e cercando di assumere un atteggiamento di tipo diverso, ecco, vorrei riportare il discorso sui rapporti di forza in cui si era situata questa pratica della provvista dei benefici. Più che fin dai tempi della decretale Licet Ecclesiarum di Clemente IV del 1265, più che alla dottrina, si era appunto, dicevo, prestata attenzione alla concretezza dei rapporti che di volta in volta erano coperti da questa dottrina. Più che la teoria del Papa padrone, l'attenzione si era rivolta allora alle speciali classi di benefici che il papato di volta in volta aveva dichiarato riservati alla propria specifica disponibilità. La decretale di Clemente IV, peraltro, nel sancire in termini generali il diritto papale di disporre di tutti i benefici, puntava in realtà ad affermare concretamente quel diritto su una classe specifica. Su di una classe specifica di benefici, cioè quelli che vacavano in curia. E altre classi si aggiunsero in seguito, aumentando la discrezionalità dell'intervento papale in materia beneficiaria e riducendo la forbice tra il diritto teoricamente illimitato e la pratica effettiva. Ma senza l'opera continua di confronto e di negoziato con i poteri e coi diritti costituiti in materia, con quelli che le autorità politiche accampavano ex novo, ben poco avrebbero potuto fare le decretali. È appena il caso di ricordare infatti che le resistenze furono fin dall'inizio molto forti. Le pretese papali vennero incriminate come nova et inaudita nei gravamina ecclesiae gallicane del 1247. E del resto tutti sanno che le accuse di Lutero non fanno che riprendere alla lettera i gravamina germanice nationis. Ecco dunque perché, più che all'evoluzione della dottrina canonistica, mi pare si debba prestare attenzione alla pratica effettiva e ai compromessi che via via si raggiungevano fra le parti in gioco. Su questo terreno varrà la pena ricordare che da molto tempo si sono fatte e si vanno facendo tuttora indagini. La storiografia erudita dell'Ottocento, prima dell'apertura degli archivi vaticani, e quella che dagli inizi del nostro secolo si è misurata con la documentazione vaticana, hanno accumulato una quantità considerevole di dati di cui occorrerà tenere conto. è una storiografia che, muovendo da una visione del processo storico accentrato intorno alla riforma protestante, ha concepito molto spesso l'esame delle fonti come verifica delle accuse dei riformatori e ha trasferito quindi su questo terreno i toni della polemica avviata dai riformatori del Cinquecento. Tirate polemiche contro i postulanti italiani di benefici, veri e propri mendicanti, bettler, che cercano di guadagnare senza lavorare, dichiarazioni di fuoco per cui dagli abusi, per esempio dagli abusi avignonesi, nascerebbe la riforma. Siete a Avignon quando a cercare les origines de la riforma, ha scritto uno studioso di questi tempi. Ecco, una svolta mi pare che si abbia sostanzialmente col breve ma lucido saggio di Barraclough degli anni 30 sulle provisioni papali, che è una messa a punto precisa e intelligente. E vorrei ricordare almeno due indicazioni. Barraclough nota intanto che in genere le provisioni papali andarono ad effetto solo perché ne erano premiati candidati accetti in loco, i quali tendono a ricorrere sempre di più a Roma per accelerare un esito su cui avevano già ragione di sperare. Il fatto importante che questo ricorso alla provisio papale da parte di tali candidati rivela è il progressivo imporsi di un modello particolare di tipo accentrato, in cui diritti e consuetudini delle chiese locali vengono accantonate, vengono messe in non cale. Nello stesso tempo Barraclough dimostra che l'ondata di proteste e di polemiche contro l'invadenza romana fa riferimento ad un modello positivo di chiesa nazionale soggetta al sovrano di tipo erastiano, che è poi il modello che la Riforma in diversi casi aiutò a trionfare. Quindi non di abusi si trattava, o almeno non proprio questo era l'oggetto del contendere. Ma è tempo, direi, di passare all'Italia e di verificare, se possibile, in che modo andarono le cose nel rapporto fra stati italiani e Roma. E qui si dovrà intanto registrare una forte carenza di studi, è stato già accennato ieri, io non posso che dichiararmi d'accordo. Se si escludono singoli casi, e uno di questi è la storia del diritto ecclesiastico dello Stato di Milano, del Prosdocimi, si è costretti a muoversi per via di ipotesi da verificare. Né io vorrei fare altro in questa sede, ma appunto intanto è necessario, per avanzare queste ipotesi, spiegare il significato di questa periodizzazione che qui si è scelta, in via ipotetica, la periodizzazione che va dalla metà del 400 ai primi decenni del 500 e appunto avanzare contestualmente le ipotesi che vorrei discutere e che sono state per la verità già avanzate ieri da Paolo Prodi, almeno in parte. È l'epoca questa, mi pare, in cui l'esame della materia beneficiaria, del modo in cui fu regolata nel rapporto fra Santa Sede e Stati italiani, deve per forza passare attraverso documenti come gli indulti, i concordati, attraverso istituzioni come le prime nunziature apostoliche, deve passare attraverso relazioni di tipo politico-diplomatico. Relazioni di cui del resto le nunziature costituirono il modello perfezionato. Scompaiono o tendono a scomparire i diritti e le consuetudini delle chiese locali, un rapporto esclusivo tende a istituirsi fra il principe, quel principe garante della vita religiosa e fortemente protagonista sul terreno della vita religiosa di cui si è parlato anche ieri qui. Il rapporto dunque è tra il principe da un lato e Roma, la curia romana, le corti cardinalizie e soprattutto il Papa stesso. Questa realtà che allora si afferma e si definisce non è certo priva di precedenti nei decenni antecedenti, ma sostanzialmente si presenta in questa forma, si definisce in questi termini, nel momento, mi pare, in cui il papato esce dalla crisi conciliarista e cerca alleati e appoggi per costruire il suo Stato in Italia, diventando quello che i riformatori più avvertiti all'interno dell'area cattolica italiana lamentarono più volte nel corso del Cinquecento. Ieri è stato citato il Libellus ad Leonem Decimum di Querini e Giustiniani. Io vorrei ricordare che tanto Querini e Giustiniani quanto il loro amico Gaspare Contarini in occasioni diverse lamentarono che il Papa diventasse un principe, fosse diventato un principe d'Italia. Querini e Giustiniani cercarono di mostrare al Papa orizzonti più vasti. Contarini, subito dopo il sacco di Roma, fece direttamente questo discorso a Papa Clemente VII, lamentando che il Papa volesse continuare ad essere un principe d'Italia. Questa realtà, che allora si stabilizza, mi pare che tenda a durare a lungo, quindi in questo senso anche la periodizzazione nei primi decenni del Cinquecento è una periodizzazione prudenziale che tenderei però a spostare molto in avanti. È una realtà che mi pare tenda a durare oltre la crisi della riforma protestante e di quella tridentina. Un segno importante di questa durata mi pare sia dato dalla sostanziale assenza di conflitti di religione per un lungo arco di tempo tra papato e principi italiani. Pur parlandosi di benefici ecclesiastici, io credo che si parlerà poco di religione e certamente se ne parlava poco allora. Io insisterò molto, diciamo, sugli aspetti politici e politico-diplomatici. Di fatto mi pare che per tutto questo periodo in cui i conflitti di religione sono diffusi e molto forti, intorno a queste materie in realtà si coagulano solo discorsi di tipo politico. E questo mi pare significativo. Come pure, appunto, ripeto, mi pare significativo che per un lungo periodo che copre questo arco indicato non ci sono, mi pare, conflitti di tipo religioso tra Papa e principi italiani. Si dovrà infatti rilevare che nel disegno generale della storia italiana, fin da prima degli indulti di Niccolò V e per l'esattezza forse fin dalla fine della guerra fiorentina degli Otto Santi, fino al conflitto salpiano dell'interdetto di Paolo V contro Venezia, papato e stati italiani non ebbero conflitti di grande portata per materie religiose. Ci furono moltissimi scontri politici e militari, ci furono guerre combattute per il predominio sulla penisola, per il nepotismo papale, e ci furono anche, in occasione di questi conflitti, a seconda del loro esito, modifiche sostanziali anche in materia beneficiaria. A Venezia, per esempio, gli atti solenni con cui la Repubblica aveva abolito nel 1471 ogni intromissione curiale nel conferimento dei benefici furono cancellati dalla sconfitta di Agnadello, della quale Giulio II approfittò per ratificare il principio della libera collazione papale. Ma la storia stessa di Milano, così agitata per tutto il secolo successivo all'indulto, è una conferma continua, mi pare, di questo modo di governare le materie ecclesiastiche. Per esempio, nel 1498 Ludovico il Moro aveva revocato in un momento di grave pericolo tutti i decreti contro la Libertas Ecclesiae, che furono poi rimessi in vigore dai suoi successori quando i rapporti di forza cambiarono. Il che non vuol certo dire che questioni come quelle beneficiarie avessero perso la loro importanza nella vita religiosa collettiva. Basterebbe a dimostrare il contrario l'enorme quantità di lagnanze avanzate in sede locale, registrate nelle visite pastorali, depositate nelle cancellerie statali e relative a diversi aspetti del vero e proprio disservizio religioso provocato da questa gestione della materia beneficiaria. Vuol dire solo che si era trovata una via pacifica di composizione di queste materie e che l'asse intorno a cui esse ruotavano era diventato, per comune consenso, un asse non più di tipo religioso ecclesiastico, ma di tipo nettamente politico. Questo asse di mediazione politica era resa possibile, mi pare, dall'incontro di diversi fattori. Il papato, costretto da una serie di cause ad assumere i comportamenti di un principe d'Italia, per riprendere la definizione di Gaspare Contarini, a trovare cioè nel contesto italiano le risorse finanziarie e gli appoggi politici per la sua ripresa, aveva in comune con gli altri principi italiani molte cose. in particolare la dimensione individuale del potere. I postulanti che accorrevano a Roma e quelli che si affollavano nelle corti italiane potevano essere tanto meglio soddisfatti dalla spartizione scorrevole garantita dagli accordi politici piuttosto che da conflitti di principio. E verifiche del funzionamento di questo sistema possono essere fatte fino anche al livello del linguaggio. Gli scambi epistolari dei rappresentanti diplomatici italiani riferiscono espressioni dell'una e dell'altra parte che nascono evidentemente dallo stesso linguaggio e fanno riferimento a comuni interessi familiari. Non era un caso, per esempio, che Callisto Terzo, per giustificare i rapaci appetiti della sua famiglia, cercasse di estendere i legami di parentela in via metaforica, affermando che i suoi nipoti sarebbero stati dei figli per il Duca di Milano e i figli del Duca di Milano sarebbero stati dei nipoti per lui, se il Duca di Milano non avesse ben inteso ostacolato la presa di possesso dei loro benefici. Ora, immagini di questo genere ritornano con significativa frequenza in casi analoghi. La spartizione dei benefici, nella incertezza della prassi e delle norme e nel variare dei rapporti di forza, finiva col trovare, mi pare, dei codici di riferimento nelle necessità di un potere legato alla struttura familiare che, per consolidare le sue fragili radici, aveva assoluta necessità delle rendite dei titoli ecclesiastici, da un lato, delle alleanze per la conquista di un potere territoriale dall'altro. Ora, visti su questo lungo arco di tempo, i comportamenti delle due parti perdono tratti occasionali che li rendono diversi e manifestano, mi pare, la loro sostanziale omogeneità. È un'affermazione che si fa, ben inteso, in via ipotetica e non dimostrata, anche perché gli studi al riguardo sono stati tutt'al più interni ai singoli stati. E tuttavia, tenendo presente il modello milanese e le indicazioni date dal Prosdocimi, non è difficile rintracciare echi e parallelismi. Così, se Gian Galeazzo aveva vietato nel 1381 per decreto l'elezione ai benefici e l'impetrazione di essi senza la sua autorizzazione, decreti dello stesso tenore si ritrovano nel corso del 400 nel dominio degli estensi. E se gli editti ducali nel 1522 a Milano affermano essere intenzione del sovrano far uso dei benefici, cito, per gratificar ai suoi sudditi, identiche intenzioni di limitare territorialmente la destinazione dei benefici del dominio si ritrovano espresse negli atti ufficiali ferraresi, fiorentini e così via, per non parlare della pratica veneziana. E lo stesso si dica per le reiterate proteste contro l'invadenza di protetti di cardinali e di personale di curia. Se il Duca di Milano scriveva all'oratore a Roma nel 1530 che, cito, la maggior parte delle chiese e monasteri sono in persone di reverendissimi signori cardinali ed altri residenti in quella corte, la sua era una delle tante voci che si levarono allora dagli stati italiani contro una pratica ritenuta rovinosa per gli interessi dei sovrani. Ma l'elemento più significativo e costante, destinato a durare a lungo nei rapporti fra stati italiani e Santa Sede, fu la diplomatizzazione, se mi si consente il termine, della prassi beneficiaria, cioè la soluzione dei casi più importanti affidata alla trattativa diretta fra stati e papato, con l'esclusione di ogni altra voce. Unica norma riconosciuta valida era, come scriveva il rappresentante a Roma degli Estensi nel 1491, cito, scrivere con ogni celerità quando vacaranno benefici, in modo da precedere altri postulanti. Questo, più ancora che non l'obbligo di ottenere il preventivo assenso del principe e la minaccia di non concedere il possesso, era il piano di rapporti reso praticabile dall'imporsi del papato come unico interlocutore. Non si trattava, mi pare, di contrasti tra Stato e Chiesa, né si trattava di affermare in via di principio l'autorità del sovrano in materie ecclesiastiche. Il linguaggio delle fonti fa riferimento a più dirette e concrete relazioni di potere. Si voleva evitare, come tra l'altro, come dichiarò una volta Francesco Sforza, cito, che ad nostro dispetto cardinali ingrassino degli inimici nostri mortali ad suo piacere. Fine della citazione. Dove risulta evidente che il contrasto era tra il principe laico e il grande principe ecclesiastico e che ambedue cercavano di ingrassare i loro parenti e amici e di punire i loro nemici, che erano magari sudditi dello stesso Stato. Su questo terreno la composizione degli interessi era agevole da raggiungere e, infatti, anche se le fonti narrative e la pubblicistica dell'epoca hanno spesso messo in risalto situazioni conflittuali in materia di benefici, le cronache del Cinquecento ne sono piene, per esempio, l'impressione che si ha dalle ricerche esistenti è quella di una sostanziale scorrevolezza dei rapporti in materia beneficiaria. Quel che sappiamo per le diocesi venete, estensi, toscane, quel che sappiamo dallo stesso quadro sincronico tracciato dall'Alberigo nel suo volume sull'Episcopato italiano e dalla storia di qualche illustre e ricca commenda e dagli elenchi di canonici di città dell'Italia centro-settentrionale per quest'epoca, penso per esempio al capitolo cattedrale di Modena o quello di Ferrara, da quello che sappiamo risulta un meccanismo del consenso politico procuratosi dal principe o dal governo repubblicano, agevolando e garantendo la distribuzione dei benefici attraverso le grandi famiglie cittadine, distribuzione che viene poi ratificata quasi normalmente, quasi infallibilmente a Roma. Si ricordi per esempio quanto scriveva Francesco Sforza, il quale in una sua lettera si dichiara dichiara di quanta importanza fosse per lui poter disporre di canonicati da distribuire alle famiglie che gli erano alleate. Gli dice appunto: talora un canonicato in la propria patria saria più grato che altrove una abbazia. Ora, sappiamo bene l'importanza sociale dei capitoli canonicali nelle città dell'impero, la loro funzione di ricettacolo delle grandi famiglie aristocratiche, ma ignoriamo ancora, mi pare, sostanzialmente la dinamica politica e sociale che stava dietro queste parole di Francesco Sforza, cioè il modo in cui i meccanismi ereditari, più o meno mascherati, di accesso privilegiato a certi benefici, venissero modificati o influenzati dalle ragioni di un potere che era poi soggetto a frequenti cambiamenti. Certo, questi rapporti col papato potevano incrinarsi, ma di fatto non si ruppero mai, segno di una loro sostanziale radice sociale e politica. C'è anche indubbiamente un processo di modifiche che porta verso i conflitti Chiesa-Stato esplosi più tardi nell'Italia 6-700esca, ma mi pare che intanto questi conflitti possono esplodere in quanto il controllo del principe o dello Stato è ormai consolidato. La stessa collaborazione offerta dagli stati italiani al papato nella lotta contro la riforma non è in fondo che l'altra faccia del rapporto esclusivo costruito dal papato per poter radicare la propria forza politica nello Stato attraverso una distribuzione oculata dei benefici ecclesiastici e la selezione del personale ecclesiastico. E qui il discorso dovrebbe allargarsi, mi pare, verso una comparazione, una distinzione e una comparazione degli stati italiani, che sono molto diversi. Io stesso tendo a parlare di Italia come un tutto unitario, laddove è evidente che intanto l'area da cui ho tratto i miei documenti è l'area centro-settentrionale, come spesso avviene, e poi tra gli stati dell'area centro-settentrionale italiana le differenze sono notevolissime, e una delle più importanti è quella che passa fra gli stati cittadini e gli stati territoriali. E un approfondimento e una comparazione delle ricerche andrebbe fatta cercando di seguire il filo del rapporto fra le città dominanti e il territorio e valutando il peso che in questo rapporto fra città dominanti e territorio ebbe la selezione del personale ecclesiastico. Ma i dati in mio possesso non mi consentono tanto. Vorrei invece aggiungere qualche considerazione per ciò che sappiamo e per ciò che vorremmo sapere sugli stati italiani e su Roma a questo riguardo, per concludere poi con qualche osservazione a proposito dell'Episcopato, sempre che il tempo e la pazienza me lo consentano. Sul terreno della storia sociale ed economica, le indagini sulle città italiane hanno fornito non pochi elementi sulla consistenza della gente di chiesa e sulla configurazione delle carriere ecclesiastiche, confermando spesso quanto già era noto per epoche precedenti, per esempio i veri e propri meccanismi successori che mantenevano di generazione in generazione determinati benefici nelle stesse mani. Ma questa sociologia storica della gens d'église, della gente di chiesa, per riprendere il termine usato in una recente monografia su Aix-en-Provence, Questa sociologia storica della gente di chiesa finisce, mi pare, col lasciare in ombra le dinamiche più profonde che tenevano in piedi quel meccanismo e che ne alterarono in seguito il funzionamento, i rapporti di potere, appunto, i rapporti di potere soprattutto, e anche i movimenti di idee, naturalmente. Tuttavia, nel censire gli studi esistenti sulle città italiane, non possiamo dimenticare che un vuoto vistoso è rappresentato dalla città di Roma proprio per l'epoca storica nella quale, e per i meccanismi grazie ai quali, questa città venne assumendo i caratteri che la resero in seguito un caso eccezionale nel panorama italiano. Gli studi esistenti si sono concentrati sulla Roma cinquecentesca e sugli aspetti, per così dire, stabili della dinamica sociale cittadina. E con questo finiscono col non rendere conto di fenomeni che le descrizioni dell'epoca riportano insistentemente, come le periodiche rivoluzioni, vere e proprie rivoluzioni nella composizione della popolazione, i papi fiorentini portano torme di fiorentini, per esempio, e il flusso continuo di affari e di uomini che porta con sé la presenza della curia e l'ampiezza internazionale del suo arco d'azione. È vero che gli effetti del sacco di Roma sono stati disastrosi anche per gli studiosi di storia che si sono dovuti rassegnare a gravi lacune nella documentazione per l'epoca precedente. Tuttavia sarebbe opportuno procedere per sondaggi al fine di misurare meglio i riflessi di processi già noti, come ad esempio l'italianizzazione del papato, i riflessi di processi come questo sulla composizione e sul raggio d'azione della curia. Indagini sociologiche, come quella del Reinhardt sul cardinalato, andrebbero riprese e ampliate a vere e proprie prosopografie, incrociando i dati biografici ed istituzionali disponibili negli archivi vaticani con le liste dei titolari di determinati benefici e prebende disponibili in sede locale. E per questa via si dovrebbe finalmente ricomporre la struttura beneficiaria che consentiva il funzionamento di quella vera e propria corte principesca che era la famiglia cardinalizia. Sull'importanza delle corti cardinalizie varrebbe la pena di insistere. Coi cardinali siamo a quello che anche ai contemporanei appariva come il vero vertice della Chiesa. Il Rucellai, nel suo Zibaldone quaresimale, descrive questo vertice come composto, cito, dal Papa e da suoi onorevoli fratelli cardinali. Ora, prima che il sistema delle congregazioni, conseguente alla definitiva vittoria del papato sul senato cardinalizio, trasformasse il cardinalato conferendogli funzioni di alta burocrazia curiale e di necessario momento di passaggio nell'ascesa al papato, il cardinalato aveva goduto di straordinario prestigio, di poteri principeschi, nella sfera temporale come in quella spirituale. Ebbene, proprio attraverso il cardinalato passa, mi pare, uno dei punti fondamentali di collegamento fra papato e principi italiani, perché nel momento stesso in cui si radicano definitivamente in Italia, i pontefici articolano la composizione del collegio cardinalizio, scegliendo nei membri, in modo da comporre maggioranze favorevoli ai loro progetti, o almeno secondo l'immediato contributo finanziario e politico che ne potevano ricavare, e comunque tenendo conto degli interessi dei principi italiani. Un caso celebre, studiato e sul quale la documentazione è ricca, è il caso del cardinalato di Giovanni de' Medici, più tardi Leone X, che è un caso che mostra a sufficienza quale somma di interessi familiari, dinastici e politici si addensasse intorno all'elezione cardinalizia e come l'elezione cardinalizia fosse, l'accordo sul cardinalato di questo o quel pretendente, fosse un momento chiave del rapporto fra il papato e i principi italiani. Si ricordi la lettera molto eloquente con cui Lorenzo de' Medici commentò col figlio Giovanni il successo raggiunto nella elezione al cardinalato. Cito: «È necessario che diventiate un buono ecclesiastico, et facciate ben capace ciascuno che amate l'onore et stato di Santa Chiesa et della sede apostolica innanzi a tutte le cose del mondo, posponendo a questo ogni altro rispetto. Né vi mancherà modo con questo riservo di aiutar la città e la casa, perché per questa città fa l'unione della Chiesa, per questa città va bene l'unione della Chiesa, et voi dovete in ciò essere buona catena, et la casa va con la città». È una catena che funziona in ciascuno dei suoi anelli. Il cardinale deve tener conto, è un personaggio politico, deve tener conto dell'interesse dello Stato, della Santa Sede, però deve tener conto anche della città, e la città va con la casa. E la catena che tira tutto questo è il cardinale. Certo, non per tutte le città d'Italia andava bene l'unione con la Chiesa. Il caso di Firenze, con i suoi banchieri, i suoi mercanti, interessati al controllo dei traffici e delle attività finanziarie della Santa Sede, era un caso particolare. Ma la testimonianza conferma che cosa potesse significare un cardinalato. Funzioni politiche e necessità di status facevano sì che la corte cardinalizia raggiungesse dimensioni enormi e avesse di conseguenza un altissimo budget. E a questo non corrispondevano entrate ufficiali minimamente adeguate. Ed ecco allora perché si mettono in moto tutti i meccanismi curiali per garantire un eccezionale afflusso di benefici, uffici, prebende nelle mani del cardinale e dei suoi familiari. Nel caso di Giovanni de' Medici, che fu certo un caso cospicuo ma non troppo eccezionale, solo le diocesi offertegli in amministrazione e da lui in genere cedute ai suoi familiari vanno in ordine alfabetico da Albi, Albenga, Ascoli Piceno, Bologna, Bitonto, Ambrin, giù fino a Worcester. Proposte razionalizzatrici tendenti a eliminare questo abuso, ritorno ancora il termine, ma è evidente la necessità di queste operazioni, proposte come quella avanzata nel decardinalato da Paolo Cortese, non potevano trovare ascolto. Ecco, mi pare l'utilità di una modesta proposta come quella di una prosopografia a questo livello, e altrettanto si dovrebbe proporre, avrei voluto proporre per i chierici di Camera, con i quali arriviamo ad un livello più basso, ma decisivo nella struttura della Roma curiale, avrei voluto proporre, perché poi ho scoperto che è una ricerca che è in corso per opera di Peter Partner, di cui tutti conoscete, credo, gli studi su Roma. Ora, partendo dalle liste note, questa ricerca dovrebbe tendere a misurare non solo l'esattezza delle accuse contro gli avari italiani, ma anche le dimensioni raggiunte allora dal fenomeno della italianizzazione della curia da un lato e dello sfruttamento finanziario delle chiese italiane per il funzionamento della curia dall'altro. E su questa strada io poi sono disponibile a interrompere in qualsiasi momento il tempo a mia disposizione sia. Sei tu che lo vedi la mattina, quindi. No, ma vorrei anche non uccidere gli ascoltatori. Non so se posso andare avanti ancora un po', io. Sì. Vorrei fare. Ancora due aggiunte in questo discorso che è un po' una catena senza forse una concatenazione molto chiara, non almeno altrettanto chiara di quella che univa Firenze a Roma. E vorrei aggiungere su questa proposta di ricerca di tipo prosopografico, che per questa via si incrocia una pista dove gli studi sono numerosi e nutriti. Una pista ripetutamente battuta dalla storiografia sul Rinascimento come fenomeno culturale, cioè appunto la capacità della Roma papale di attirare e di collocare, grazie ai benefici ecclesiastici e agli uffici curiali, una gran quantità di uomini di lettere. Ebbene, qui, al di là di casi individuali, si può assumere come considerazione valida in generale quella fatta da Carlo Dionisotti. I titoli letterari non garantivano nessun diritto particolare sul mercato dei benefici. Lo sapeva bene, tra l'altro, Paolo Cortese, che trattando del cardinalato lamentò con amarezza la scarsa considerazione in cui si tenevano a Roma i requisiti culturali e letterari, per esempio per le candidature cardinalizie. E anche ai livelli più bassi non furono greco e latino a favorire l'accesso ai benefici, ma piuttosto la protezione di un potente, quindi pur sempre un rapporto di clientela. Il fratello di Paolo Cortese, Alessandro, che poteva fare solo un scarso affidamento sugli uffici curiali ricevuti in eredità dal padre, siamo di fronte a quella che Pio Paschini ha definito una famiglia di curiali, si era rivolto prima a Lorenzo de' Medici, sollecitandone l'intervento in curia per aver benefici, poi si era recato a Napoli, dove, come scriveva egli stesso, sono tante chiese e te sogliono darsi a richiesta di tali signori, dove vediamo in atto questi spostamenti a seconda dell'offerta che si poteva trovare. Ma anche se portava con sé come garanzia un poema in lode di Mattia Corvino, re d'Ungheria, non ottenne successo e se ne dovette tornare indietro senza aver ottenuto quanto sperava. Aveva anche, questo Alessandro Cortese, meditato di lasciare la difficile carriera curiale ed ecclesiastica e di passare al servizio di altro padrone. E in genere si può dire che nel breve giro di anni che separa questo tentativo di Alessandro Cortese dalla stesura del decardinalato da parte del fratello Paolo, le possibilità di scelta si restrinsero per i letterati italiani e rimasero aperte solo in direzione di Roma. Nella bufera che in quegli anni investì le corti italiane maturò anche il mutamento di progetti, significativo mutamento di progetti di Paolo Cortese, che aveva pensato di scrivere un trattato sul Principato e scrisse poi un trattato De Cardinalato, questo De Cardinalato stampato postumo nel 1510. Lo splendore delle corti, quindi, e in particolare lo splendore della corte romana, attraeva i letterati senza mezzi, che avevano come alternativa solo l'umile mestiere di precettore. E a Roma, come è noto, si diresse anche Ludovico Ariosto, subito dopo l'elezione di Leone X. E questo è pure un caso significativo, perché è ben noto quanto l'Ariosto resistesse a entrare nella vita ecclesiastica e quanto fosse attaccato a Ferrara. E tuttavia, come gli stesso ha scritto, lo attirava la speranza di trovare, al termine del suo viaggio a Roma, la cresta di fuor bianca e dentro nera, cioè un vescovato. E solo la disattenzione di Leone X e la presenza di clienti più importanti impedì che ai tanti vescovi italiani residenti in curia e impegnati in attività diplomatiche e in servizi cortigiani si aggiungesse il nome di Ludovico Ariosto. E tuttavia, se i titoli letterari non garantivano particolare successo nella caccia ai benefici, si dovrà tener conto del fatto che il curriculum degli aspiranti alla carriera ecclesiastica comprendeva normalmente anche quel tipo di requisito. E le richieste di umanisti e di letterati si affollano soprattutto nell'area dei benefici minori, dove bastava poco, bastava un minimo impegno, senza nessun impegno sostanziale verso lo stato ecclesiastico, con la sola formalità della prima consura si entrava in una zona d'attesa e prima o poi, a seconda della fortuna e della potenza del patrono, si otteneva il beneficio. Basta sfogliare i registri delle suppliche rivolte al Papa o ai suoi legati, al centro o alla periferia del potere della Chiesa, per imbattersi in un numero altissimo di richieste di giovani e giovanissimi studenti che chiedevano la dispensa necessaria per ricevere la prima tonsura senza attendere l'età canonica ed entrare così nella milizia clericale, per la quale i formulari prevedevano che si dichiarassero accesi di improvviso amore. Così, con le rendite del beneficio, si completavano gli studi universitari, si poteva poi vivere a corte o comunque al servizio di chi aveva procurato quel beneficio. Se poi al beneficio era connesso un ufficio di cura d'anime, se ne otteneva dispensa. Una verifica e una conferma si trova, e qui riferisco sempre ai risultati di ricerche, sono state le ricerche più praticate in questi anni, una conferma di questo si trova nei registri delle visite pastorali, che fino al Concilio di Trento e ancora oltre sono pieni di casi di chiese con cura d'anime, i cui titolari sono assenti per motivi di studio o per servizio cortigiano o curiale. Alla metà del 400, per esempio, il vescovo di Ferrara, l'ex gesuato Giovanni Tavelli da Tossignano, che amministrava la sua diocesi col severo spirito religioso appreso all'interno del suo ordine, annotò negli atti della visita pastorale lo stato di deplorevole abbandono della chiesa di Sant'Antonino di Voghiera, di cui era rettore l'umanista, un umanista noto, Giovanni Aurispa, che viveva a Roma, dove era titolare di un ufficio di segretario apostolico. Ed è questa una situazione in certo senso emblematica dei rapporti fra curia, umanisti e benefici con cura d'anime. In questo caso non c'era nemmeno un cappellano a prendersi cura della parrocchia. Il vescovo annotò nel registro della visita la richiesta dei parrocchiani di avere qualcuno che amministrasse i sacramenti, ma altri visitatori a distanza di anni registrarono il permanere di una situazione immutata. Il cappellano non c'era, vi si recava saltuariamente un frate a celebrare, i parrocchiani si recavano in altre chiese e qualcuno di loro era anche morto senza assistenza ecclesiastica, ma l'Aurispa se ne rimase in curia. In casi come il suo, le esenzioni dagli obblighi ecclesiastici non erano difficili da ottenere, ma sempre usando questo piccolo campione tratto dalle visite pastorali quattrocentesche ferraresi, sembrerebbe che più della curia romana fosse la corte ferrarese a mantenere uomini di lettere con benefici ecclesiastici, impegnandoli in servizi cortigiani. come ebbe a scrivere Ercole Primo d'Este contro chi si lamentava di casi di questo tipo, il servizio prestato nelle corti era da considerarsi motivo valido di esenzioni dagli obblighi ecclesiastici per i titolari di benefici, motivo altrettanto valido della presenza e permanenza in curia a Roma. E si sa bene quanto i sudditi degli Estensi fossero amanti di vivere in corte a Ferrara piuttosto che a Roma. Comunque anche in questo caso la corte imita la curia e si somma, si aggiunge alla curia nell'uso del beneficio ecclesiastico come risorsa fondamentale per il proprio funzionamento o almeno per l'irraggiamento del suo potere. E si è dunque rinviati da questo caso specifico del rapporto con gli uomini di lettere al tema fondamentale del nostro discorso, che è appunto quello del rapporto fra corti italiane e curia romana, fra stati italiani e Santa Sede in materia di benefici. Perché è evidente che le dispense per vivere in corte, in casi come questo, si ottenevano facilmente per vivere in curia o per vivere in corte, essendo i meccanismi romani in grado di procurarle. L'etica professionale dei funzionari romani da questo punto di vista è ben espressa dall'epigrafe del datario di Alessandro VI, di cui si scrisse «Officia et beneficia carius quo potuit vendidit ut pape gratificaretur». La questione fondamentale era quella dei poteri che il principe era in grado di esibire in materia di benefici, garantendo o meno un'adeguata protezione ai suoi clienti e sudditi. Forse potrei avere ancora qualche minuto per affrontare, volevo soffermare sul caso milanese, ma spero che il professor Pozdoscini poi riprenda l'argomento che conosce molto meglio di me, e vorrei concludere semplicemente con alcune osservazioni sull'episcopato, cioè sui riflessi di questo tipo di mediazione politica ad un livello particolarmente importante della struttura ecclesiastica e della vita religiosa, quello dell'episcopato, che è quello su cui si soffermarono con maggiore insistenza le lamentele, i memoriali di riforma, e al quale poi si dedicò maggiormente l'opera del Concilio Tridentino, il tentativo del Concilio Tridentino di costruire una rete di governo ordinario della Chiesa basato sull'episcopato. Ora, è un fatto immediatamente evidente a chi sfogli le pagine del GAMS, la presenza di vere e proprie dinastie parallele a quelle principesche a capo delle diocesi degli Stati. Oltre ai Visconti a Milano si potranno ricordare gli Estensi a Ferrara, ma anche gli Estensi a Milano, i Gonzaga a Mantova, oppure si possono rilevare presenze costanti di grandi famiglie nobiliari in sedi episcopali importanti, così per esempio i Carafa a Napoli, i Campeggi a Bologna, e gli esempi si potrebbero moltiplicare, il caso dei Medici è stato già ricordato. Va fatto presente naturalmente che altro erano le diocesi delle città capitali, altro le diocesi delle città soggette e soprattutto che altro erano le diocesi del nord, altro quelle del mezzogiorno d'Italia. Le piccole e piccolissime diocesi che abbondavano nell'Italia meridionale, come ha notato Denisei, avevano scarso valore ed erano ben poco appetite sul mercato dei benefici. Le loro rendite servivano appena a mantenere parzialmente la burocrazia curiale e i loro titoli servivano a illustrare qualche cortigiano. Ma se il cortigiano, che se ne trovava insignito, aveva protettori potenti, poteva darsi il caso che facesse rimostranze chiedendo qualcosa di più adeguato all'autorità del suo signore. E quanto avvenne, per esempio, ad un cortigiano, protetto niente di meno che dal cardinale Alessandro Farnese, il parmigiano Zaccaria Rondani, che nel 1545 mandò una lettera di vibrata protesta perché gli era stata offerta la diocesi di Alatri, che gli apparve disonorevole non per se stesso, ma per il suo protettore, che non meritava un'offerta così bassa. Di fatto, per lungo tempo, la maggioranza dei vescovi delle piccole diocesi meridionali fu costituita da membri di ordini religiosi, ai quali erano anche affidate le funzioni di vicari in spiritualibus o di suffraganei, come allora si diceva, nelle grandi diocesi disertate dai titolari occupati nella vita politica e cortigiana. Ora, nelle città dell'Italia centro-settentrionale, accanto alle poche grandi sedi destinate alle famiglie principesche e ai nipoti dei papi, c'è una serie di diocesi di media grandezza che vengono assegnate secondo criteri di affidabilità politica dei titolari e per ricompensarli per le loro attività politiche e diplomatiche al servizio dello Stato. È noto il caso delle diocesi della terraferma veneta, destinate alle grandi famiglie della nobiltà cittadina, e misurate alla loro fedeltà politica. Ma è forse meno noto e più significativo quello che avviene nello Stato estense. Qui le rendite delle diocesi servirono a stipendiare gli uomini di fiducia dei principi impegnati in funzioni politico-diplomatiche di servizio dello Stato. Quando poi lo Stato estense entrerà in rapporti conflittuali col papato e ne temerà l'iniziativa, saranno uomini di curia a subentrare in quelle diocesi, ma ne resterà ferma la connotazione politica della figura del vescovo. La serie di vescovi di Modena, di Reggio Emilia, dalla fine del 400 al tardo 500 mostrano visibilmente questo passaggio dai diplomatici di una piccola corte italiana alla grande diplomazia curiale. Giovanni Andrea Boccaccio, Buon Francesco Arlotti, vescovi rispettivamente di Modena e di Reggio alla fine del 400, erano due oratori del Duca d'Este a Roma. Al loro posto, nel secolo successivo, troviamo uomini della curia che, mentre portavano il titolo di vescovi di quelle diocesi, erano impegnati in missioni diplomatiche di ampiezza europea. Giovanni Morone, Marcello Cervini, intanto a Ferrara c'era Giovanni Salviati, ultimo erede del nepotismo mediceo, a interrompere la serie dinastica estense. Perché questa caratterizzazione politica, politico-diplomatica della figura del vescovo? Caratterizzazione che rimane stabile per molto tempo. Beh, evidentemente perché qui si trova un personaggio in grado di risolvere un problema, che è un problema vivamente sentito negli stati italiani, nei piccoli stati italiani soprattutto di quest'epoca, il problema del personale politico, del personale attraverso cui l'autorità del principe si estrinseca. La letteratura politica di quest'epoca mostra quali difficoltà si incontrassero nel reclutamento del personale diplomatico e più in generale nella costruzione della burocrazia di Stato. A Firenze, per esempio, dove il problema fu reso più grave dalla lentissima dissoluzione delle forme municipali e repubblicane, Ludovico Alamanni consigliava ai medici nel 1516 come reclutare gli uomini attraverso i quali costruire il loro Stato. Per disporre di buoni ambasciatori, l'Alamanni suggeriva di impiegare, cito, quelli che per essere letterati ed ingegnosi fussino buoni per segretari, mandatari, commissari. Ecco, questa scelta di fatto, allora per esempio Francesco Guicciardini pensò seriamente di entrare, nella vita ecclesiastica e invece poi finì con l'essere l'uomo politico e di negozi che tutti sappiamo. Di fatto la scelta tende, sembra, a cadere, soprattutto nella Stato estense ma anche altrove, tende a cadere sopra i vescovi. Ecco, questo è il dato palese su cui vorrei concludere questa, ahimè, troppo lunga chiacchierata. Perché questo avvenisse non è del tutto chiaro, ma certamente molti fattori contribuirono a questo esito, che doveva caratterizzare per molto tempo le chiese italiane. Grazie. Er hat dabei den Schwergewicht gelegt auf die Strukturen der diplomatischen Beziehungen zwischen den italienischen Einzelstaaten und dem Papsttum und die Probleme, die sich dabei aus der Gründenprovision ergeben, wie ich meine, gerade auch für die deutschen Teilnehmer ein sehr interessantes Thema, denn es zeigt doch sehr verschiedene Verhältnisse gegenüber dem, was bei den Gründenprovisionen im Deutschen Reich nördlich der Alpen an Problemen ansteht. Aber ich möchte das nicht selber weiter auseinandersetzen, sondern die Diskussion, in die Diskussion hineingehen und darf Sie um Fragen bitten. Herr Schimmelfein. Ja, ich weiß nicht, ob das, was Sie zur gründenden Praxis sagten, Herr Bonfrey, so neu ist für unsere Epoche. Vielleicht müsste man die Intensivierung, also die allmähliche Steigerung der Kontakte zwischen den italienischen Staaten und dem Papsttum auf dem Weg der Fünfvergabe stärker betonen und was sich nun verändert hat. Normalerweise war doch auch schon im 14. Jahrhundert die Möglichkeit da, städtische Familien durch Bischofssitze und andere Gründen abzusichern bzw. ihr Ansehen zu steigern. Meines Erachtens ändert sich Ende des 15. Jahrhunderts in dieser Hinsicht nichts, aber in den finanziellen Auswirkungen. Im 14. Jahrhundert muss auch ein geforderter und nominierter Bischof seine Servizien zahlen. Ende des 15. Jahrhunderts sind die Einnahmen für die Kurie aus den Servizien, nicht nur aus Italien, sondern fast aus allen Ländern, sehr gering geworden. Das heißt also, der finanzielle Abfluss und damit der finanzielle Vorteil für den Papst ist jetzt geringer als 100 Jahre zuvor. Und das ist ja eine der Folgen auch der Konzile, vor allem des Konzils von Konstanz. Das müsste man vielleicht stärker betonen. Andererseits müsste man meines Erachtens auch die Wechselwirkung, welche Vorteile hat meinetwegen Milano oder Florenz davon, welche Vorteile hat aber auch der Papst davon. Sie haben das eine Beispiel mit Giovanni Medici genannt, wie er Kardinal wird. Und haben ja selbst gesagt, dass das nicht nur gut dokumentiert, sondern auch relativ kompliziert ist. Aber meines Erachtens kann man gerade daran die beiderseitigen Vorteile deutlich machen, denn es dient ja an sich dem Abschluss der Konflikte aufgrund des Pazzi-Aufstandes unter Sixtus IV., weil ja der Papst involviert war. Und für den Papst ist auch das ein Vorteil, denn eine Schwester von Giovanni Medici heiratet seinen Sohn. Und damit ist er ja automatisch als Kardinalssohn und dann also als Papstsohn, an sich nicht geschäftsfähige Sohn, auf einmal adlig und herrschaftsfähig geworden. Das heißt also, hier ist doch für den Papst genauso ein Vorteil wie für Lorenzo Medici, dass sein 13-jähriger Sohn schon Kardinal wird. Da ist die Wechselbeziehung da. Und bleiben wir noch bei den Medici. Da gibt es Familien, die in Florenz aufsteigen mit den Medici, mit Hilfe der Medici, aber auch selbstständig, dann aber auch die Kurie benutzen, um ihr Ansehen zu Hause in Florenz mehr zu steigern. Etwa die Familie Pucci, wo drei Pucci nacheinander Tataren sind, Großpenitenziar und denselben Kardinalstitel haben, von Alexander dem VI. Bis zu Paul III. Und zwar, weil sie so viel Geld dem Papst geliehen haben, was er nicht zurückzahlen kann oder will, dass sie immer diese Posten behalten müssen. Das heißt also, das wäre reinste Simonie. Und zu Hause bauen sie sich dann einen riesigen Familienpalast, der jetzt noch steht, wo heute noch das Wappen von Leo X. dran ist, also ihres Hauptgönners, wenn man so will, oder auch Nutznießers, denn der andererseits schöpft neue käufliche Ämter an der Kurie, zwingt die Pucci dazu, den größten Teil, die größten, meisten Portionen zu kaufen, schöpft wieder Geld von dem ab. Das heißt also, es geht ja gegenseitig. Das heißt, der Papst benutzt neue Familien, um Einnahmen zu haben oder um sein Ansehen zu steigern, um seine Kinder zu fördern, mit seinen Kindern Staat zu machen, wenn man so will. Und andererseits benutzen Familien aus italienischen Städten, nicht nur die Herrscher, das Papsttum dazu, um zu Hause mehr Renommee, mehr Ansehen, mehr politischen Einfluss zu gewinnen. Ich glaube, das ist gerade in dieser Periode um 1500 wichtig. Und andererseits, wie gesagt, die finanziellen Abweichungen um 1500 im Vergleich zu vorher. Und liest man 1525 das erste Budget der Kurie, was relativ ausführlich erhalten ist, dann merkt man, wie die finanziellen Relationen sich doch sehr stark verändert haben im Vergleich zur Periode um 1470 noch. Letzte Frage wäre, ist der Einschnitt des Friedens von Lodi 1454 und andererseits der Einmarsch Karls des VIII. In Italien und dann der ganze Trabel um Milano und um Neapel ein Bruch in den Beziehungen, zumindest zwischen einigen italienischen Staaten und dem Papsttum? non so, ascoltiamo altre domande oppure. Wollen Sie gleich darauf antworten? Ja. Per quanto riguarda il vantaggio finanziario, questo mi pare uno dei vantaggi finanziari di queste operazioni, la materia finanziaria, io non mi sono soffermato su questo punto, è evidentemente una materia di enorme importanza. Io confesso la mia scarsa dimestichezza con la storia economica e quindi questo aspetto non l'ho affrontato. Certamente un dato rivelato mi pare da una ricerca di Mario Rosa sopra la fiscalità pontificia, un dato come il progressivo ridursi delle annate nel corso del Cinquecento e l'aumentare, diciamo, una specie di saldo attivo della voce delle dispense matrimoniali presso la penitenziaria e un calo invece costante delle annate dei benefici. Questo era il dato risultato dalle ricerche di Mario Rosa sulla fiscalità pontificia nel corso del Cinquecento e soprattutto dopo il Concilio di Trento. Ecco, questo è un dato molto importante che è interessante non soltanto per la storia economica e per la materia beneficiaria in generale, ma è interessante proprio per la storia della Chiesa, mi pare, cioè nel senso che mostra in atto una tendenza alla progressiva cessione o cessione ai principi, riduzione delle entrate fiscali sui benefici. Appunto, questa politica dei rapporti fra papato e principi ha nei doni fatti ai principi una voce molto importante e un compenso che invece si ottiene dall'intensificarsi dell'attività della penitenziaria. Cioè, in sostanza, i vincoli fra le chiese locali e Roma si riducono mentre aumenta il peso di Roma sulle coscienze della cristianità. Questo è un tipico aspetto della Chiesa, di quella che è stata chiamata la Controriforma, l'età tridentina, che è misurabile, quantificabile in questo gioco delle cifre della fiscalità pontificia. Dunque, l'altra domanda era il vantaggio per il papato della scelta di Giovanni dei Medici. Questo mi pareva appunto un caso molto, molto significativo e importante perché è concepito da Lorenzo dei Medici come una specie di consacrazione del potere raggiunto nella città, cioè il fatto di avere un figlio cardinale è il segno ufficiale di questa raggiunta dimensione principesca. Mi pare appunto un episodio importante non solo conosciuto e studiato eccetera, ma importante proprio perché è vissuto da ambedue le parti come il riconoscimento che la Casa dei Medici sta aggiungendosi alle altre case principesche italiane l'aver raggiunto l'obiettivo del figlio cardinale è inteso in questo senso. Qual era il vantaggio della parte del Papa? Le relazioni di parentela a cui è stato alluso evidentemente sono significative da questo punto di vista, ma direi che in questo come in altri casi di questo genere le relazioni di alleanza che si costruiscono, in questo caso relazioni molto forti di alleanza tra Roma e Firenze, sono il motivo fondamentale di questo tipo di operazioni. Mi pare Denisei ha misurato la diversa incidenza delle nomine cardinalizie, ha fatto un grafico sulle nomine dei cardinali italiani e rapportate ai cardinali non italiani. Il grafico è abbastanza eloquente di una tendenza che rimane sostanzialmente stabile e immutata nel corso di tutto questo periodo a privilegiare appunto i cardinali italiani. Soprattutto mi pare significativo il fatto che non sia visibile un movimento di diminuzione né un movimento di ascesa della linea. È una specie di situazione stabile, non toccata da eventi che noi ci aspetteremo drammatici, appunto come gli eventi della vita della Chiesa di quest'epoca. Sì, la pace di Lodi mi pare che sia in questo senso una data cardine, ma non so se ho risposto però alle domande, perché ho perso un po' il... La calata della spedizione di Carlo VIII, sì. Se anche questo abbia cambiato questa relazione, questa era la domanda. Sì, anche. Sì, è vero. L'impressione è che modifica le relazioni per quanto riguarda la presenza francese in Italia, e qui credo che il professor Prosdoci mi potrebbe raccontare delle cose molto interessanti sul modo in cui la presenza francese a Milano si traduce nel rapporto fra Milano e la Santa Sede in un atteggiamento più duro, più intransigente, in atteggiamenti di tipo appunto decisamente francese, di affermazione dell'autorità del sovrano sopra la sua Chiesa. Per quanto riguarda gli altri stati italiani, certo modifica i rapporti di alleanza, però non mi pare che modifichi sostanzialmente la struttura delle relazioni beneficiarie nell'asse di tipo politico-diplomatico in cui venivano affrontate e risolte. Io avevo una piccola constatazione. Mi sembra che con la relazione di Prosperi effettivamente si sia ulteriormente riavvicinati al punto della nostra discussione di partenza da ieri mattina, identificazione anche di momenti di mutamento in questo arco di tempo tra la fine dell'età conciliare e l'esplodere della riforma. Alcune suggestioni di Prosperi credo che aiutino a immaginare ulteriori sviluppi di questa indagine, soltanto se noi ad esempio riflettiamo un momento sui grossi mutamenti che intervengono in questo lasso di tempo proprio sugli uffici dello Stato che gestiscono, per così dire, il budget economico, essenzialmente la Camera Apostolica e la Lateranica. Ecco, su cui noi abbiamo una serie abbastanza, soprattutto sulla Lateranica, abbastanza ampia di studi, penso ad esempio all'Ittica per la Lateranica, ma di natura essenzialmente tecnica, e che ancora a fatica, ecco, riescono a inserire il discorso del ruolo nuovo che assumono questi uffici in un generale mutamento delle condizioni dello Stato Pontificio. Credo che appunto Partner, già richiamato in un suo breve studio, ma molto denso, apparso su Past and Present di un paio d'anni fa, faccia già un grosso passo avanti, soprattutto nel lato della Camera. Ma mi sembra che, se noi torniamo ad esempio alla datteria stessa, è indubbio che in questi anni, ovvero prima delle trasformazioni indotte poi dal Concilio, ma del Concilio di Trento, ma ripeto, già agli inizi del secolo, si assiste a un modificarsi della struttura stessa della datteria, che passa sempre di più a definirsi come vero e proprio ufficio finanziario autonomo, che sviluppa una propria linea di intervento nella amministrazione anche delle faccende beneficiarie, e che da un lato però mantiene strettissimo il legame con il papato, appunto tanto da essere definita dall'ambasciatore veneziano Soranzo per la borsa particolare del Papa. Ecco, io credo che se noi riusciamo ovviamente non in questa sede, ma con il prosieguo del nostro lavoro, a richiamare e a mantenere fermi questi punti di mutamento proprio nelle istituzioni anche finanziarie dello Stato Pontificio, collegando poi qui, ecco, in questa luce anche, mi pare, le ricerche di prosopografia dei chierici di camera, ma anche dei funzionari, se è possibile, ecco, le generazioni dei funzionari, perché se ci sono le generazioni, le famiglie vescovili o i passaggi dei benefici all'interno della stessa famiglia, da mia esperienza mi è capitato di usare molto spesso il passaggio all'interno di un ceppo abbastanza basso di funzionari di camera, di un passaggio all'interno della stessa famiglia, di padre in figlio, di nipote in figlio, di zio in nipote, abbastanza evidente soprattutto in questi anni di primo Cinquecento. Cioè mi sembra che all'interno delle istituzioni finanziarie dello Stato della Chiesa, a cavallo di questi anni si mettano in moto, si inneschino meccanismi, indipendentemente dalla discussione sugli abusi o indipendentemente dalla discussione sulla riforma, sia cattolica sia protestante, di estremo interesse per comprendere l'affinarsi della istituzione Stato della Chiesa. Ecco, io credo che appunto si stiano davanti questi filoni di ricerca che indicava Prosperi, sia una maggiore conoscenza del personale, ma anche un maggiore inquadramento di tipo appunto politico-istituzionale e non solo tecnico, di queste grosse macchine amministrative che appunto assumono sempre di più una rilevanza autonoma, un'autosufficienza. Ecco, credo che questo ci possa illustrare molto bene i processi che avvengono nelle strutture della Chiesa e anche ci aiuti appunto a superare questa problematica un po' riduttiva degli abusi per un sistema che molto probabilmente era proprio un vero e proprio sistema di reggimento. Un'altra osservazione io avevo sulle richiamare la discussione di ieri, mi sembra che Prosperi abbia portato alcuni altri elementi importanti al chiarimento del tema del perché, per così dire, diciamo in maniera molto, molto rozza, del perché in Italia non c'era stata la riforma e sui temi dell'intensità del potere esercitato dal principe. Ecco, mi sembra che il sistema delineato da Prosperi di interrelazioni politiche molto strette tra i principi e il papato, che trova nel cardinalato, nel momento del cardinalato, uno dei suoi nodi fondamentali, possa servire a illustrare molto bene l'intensità del potere, lo scambio di potere che avveniva a livello della realtà italiana, soprattutto appunto centro settentrionale, che tendeva appunto a fare un tutto organico delle relazioni tra Papa e tra Papato e stati principeschi, di cui appunto il Papato era un elemento fondamentale di questo sistema di relazioni e imprescindibile. Ecco, quindi probabilmente un'introduzione di meccanismi analoghi a quelli della riforma protestante scardinava sicuramente, in cambio poi di che cosa, non era ben chiaro, scardinava sicuramente questo sistema. Ecco. Basta. Sì, sono d'accordo con le osservazioni di Mazzone. Io più forte, sì, più. Non ho parlato degli uffici della dataria, per la quale esistono però mi pare problemi anche di documentazione piuttosto seri per interi periodi. Ma su questo credo che se Bizocchi e Pittolini ci informassero delle loro ricerche, forse la discussione potrebbe fare un passo avanti. Per quanto riguarda la questione della successione negli uffici, quello che sappiamo è, direi, abbastanza è sufficiente per vedere in atto un meccanismo di tipo ereditario molto forte. Mi pare che Göhler abbia dato i numeri, i dati per il primo 500 e sono dati impressionanti. Gli uffici che si liberano sono in un numero bassissimo e in realtà attraverso il funzionamento degli uffici della Curia si riuscirebbe a vedere l'altra faccia della cedevolezza del papato in materia di concessione dei benefici. In realtà è qui che si raccoglie ciò che si perde altrove, mi pare. Per quanto riguarda la questione dell'origine della causa della riforma, sì, temo che sia un fantasma che continuerà ad agitarsi fra di noi, ma credo che vada anche tranquillamente accantonato, mi pare, nel senso che una volta si cercava di rispondere al problema dicendo appunto la riforma nasce dagli abusi, la riforma non nasce dagli abusi, la riforma da cosa nasce. Ecco, oggi si può anche riconoscere, dopo tanti anni di discussioni storiografiche sul rapporto fra strutture politiche, economiche e circolazione delle idee, si può anche riconoscere un margine di casualità. In Italia non c'è stato Lutero, questo è anche una delle cause per cui in Italia non c'è stata la riforma. Ecco, e per quanto riguarda l'osservazione sui rapporti fra papato e principi, la vecchia storiografia ottocentesca del resto l'aveva già avvertito, l'importanza del nesso politico, dell'alleanza stretta tra papato e principi, da questo punto di vista è fuori di dubbio. Un esempio significativo, per esempio, visto che una delle mie basi documentarie meno incerte è quella relativa allo Stato Estense, un dato significativo è la svolta che si ha alla metà del Cinquecento a Ferrara, dove a rapporti di collegamento politico col papato fa immediatamente riscontro una attività durissima, senza precedenti nella sua durezza in Italia, contro il dissenso religioso. Le condanne a morte più radicali e dure si fanno proprio qui e segnano questa saldatura di interessi. Ma la semplificazione potrebbe continuare, la storia dell'Inquisizione, del suo funzionamento negli Stati italiani è una specie di verifica continua, ecco, di questi elementi. Non so se diciamo. Posso accettare? Allora, accetto l'invito di Prosperi di dire qualcosa in particolare sullo Stato di Milano, la condizione dello Stato di Milano sotto questo profilo, però prima vorrei anche sottolineare come la relazione, la bella relazione di Prosperi ci abbia dimostrato che la situazione del 400, come del resto anche del 500 si potrebbe dire, è una situazione che sia facessimo un po' di tipologia, e credo che anche lo storico debba aiutarsi con una scansione tipologica, e allo stadio si trova questa situazione a metà strada tra quella che è il tempo medievale, in cui a mio giudizio non si può parlare di uno Stato a livello universale, ma si deve parlare di un unico ordinamento che congloba quelli che noi chiamiamo Stato e Chiesa, cioè la cristianità, e la situazione moderna dei secoli XVIII, XIX e nostra, per indicare almeno agli italiani il tipo di questo momento moderno, io richiamerei l'articolo 7 della Costituzione nostra, in cui si dice che lo Stato e la Chiesa cattolica sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani. Ora abbiamo quindi due tipi estremi, quello medievale, unità, un dualismo interno ad un unico ordinamento, e dall'altra la situazione dei secoli moderni, specialmente non attuale, in cui invece ci sono due ordinamenti indipendenti e sovrani, ciascuno nel proprio ordine. Ora, la situazione del 400 e primo 500 almeno può essere considerata una fase intermedia, dove non si può parlare di uno Stato e di una Chiesa indipendenti e sovrani. L'abbiamo sentito quante rapporti, quanti miscugli di interessi, di concessioni, e al di là di qualsiasi concordato altro, quanto direi giornaliero traffico c'è tra la Curia Romana e i principi, tra il collegio cardinalizio e i principi, tra vescovi e utilizzati anche come ambasciatori e diplomatici dal principe. Ecco, quindi vorrei sottolineare che la relazione di Prosperi ci ha veramente indicato, senza affrontare, come io adesso cerco di affrontare, questa scansione tipologica, ci ha presentato questa situazione. Occorre tenere presente appunto che siamo in una fase in cui lo Stato moderno, che è da poco nato, afferma una sua, diciamo pure, sovranità, lo Stato territoriale, perché appunto rispetto al Medioevo occorre segnalare questa caratteristica, che lo Stato moderno nasce come entità particolare e territoriale, ma nello stesso tempo non è ancora così consolidato e chiuso da non avere dei rapporti fluidi, continui, da non avere ancora, diremmo, una continua azione di scambio con la Chiesa e la Curia Romana, tanto che appunto tutto è fluido, tutto è vero, azione di dot des e di vero compromesso, potremmo dire. Questo per quanto riguarda appunto il tentativo di fare una tipologia di questa situazione. Venendo invece a aggiungere qualche cosa per quanto riguarda Milano, vorrei ricordare che dunque il periodo sforzesco ha mostrato un'azione. Se c'è stato un momento violento è stato nel periodo visconteo, quando con i papi di Avignone, con Giovanni XXII, i visconti hanno avuto uno scontro durissimo, anche se piuttosto passeggero. Ma se si toglie questa situazione momentanea, Avignone-Visconti, motivata da tante cose di natura piuttosto politica che non religiosa, il rapporto tra il ducato, se volete prima la signoria e poi il ducato visconteo e sforzesco, è stato un rapporto che io ho creduto di qualificare come tipico, nel senso di un equilibrio e una situazione che altrove non c'è stata, o perché c'erano sbandamenti di tipo curialistico, non occorre arrivare però allo stato della Chiesa per questo, oppure di carattere di un regalismo o giurisdizionalismo ante litteram, come nell'ambito della Repubblica della Serenissima di Venezia. Ecco, Milano in questo credo che abbia avuto una, abbia dato un esempio di continuità tipica, moderata nei rapporti, tanto da poter essere in un certo senso considerata una caratteristica, una situazione esemplare. Come si è svolta il rapporto per grandissime e rapide linee? Si è svolto anzitutto con una ingerenza viscontea che ha cercato di controllare il conferimento, la collazione dei benefici in forma preliminare, cioè i duchi, i signori e poi a Giangaleato Visconti, i duchi hanno cercato di proporre, di intervenire con le loro proposte pesanti per la nomina dei prelati, degli ecclesiastici nel loro stato. Quindi è stata un'azione preventiva su quelli che sono da considerare gli organi canonici, siano essi gli organi locali finché ci sono stati, i capitoli, cattedrale, eccetera, e poi specialmente, e siamo ormai in questa fase, la collazione avvocata e vero riservata a Roma. Quindi il controllo preventivo, un'azione quindi a carattere, potremmo dire, regalista. Con gli Sforza, con Francesco Sforza, che non ha avuto, quando è arrivato a Milano e si è inserito come nuovo duca, sposando la figlia di Filippo Maria Visconti, c'è stato il momento del compromesso ufficiale, il concordato tra Niccolò V e il duca. Devo dire che Francesco Sforza non aveva avuto un'investitura formale del ducato, era quindi in una situazione di una certa debolezza formale, non sostanziale, ma formale, mancava il titolo, poteva essere quindi considerato ex defecto titolo di tiranno, secondo le teorie della medievali, e quindi è venuto a patto con Niccolò V e ha ottenuto quindi di proporre il diritto di proposta dei maggiori almeno benefici ecclesiastici a suo vantaggio. Tutto questo è andato avanti con alternanze varie vero per tutto il periodo sforzesco, e Prosperi ci ha ricordato come Ludovico il Moro, già vero in pericolo di perdere il ducato per la presenza ai confini della Francia, è vero, anche ha avuto momenti di cedimento, come li ha avuti poi il piccolo Massimiliano, figlio vero, quando ha potuto conquistare per poco qualche anno il titolo e la funzione ducale. La Francia, il periodo francese invece si presenta un capovolgimento di questa situazione, vale a dire non più il controllo, ecco quell'irrigidimento di cui parlava Prosperi, non più l'intervento preventivo fosse unilaterale come nei Visconti o fosse vero legittimato dal concordato di Niccolò V, ma invece un intervento a posteriori, nasce cioè nello Stato di Milano quello che è il cosiddetto diritto di placet. Il diritto di placet, cioè il gradimento successivo che l'autorità politica, il duca, concede agli ecclesiastici nominati dalla curia romana. Quindi è vero, c'è questo mutamento notevole, non più il controllo preventivo, non più il controllo concordato, ma invece per il controllo successivo, che è veramente uno di quegli ura regalia che poi nella, i teorizzatori del diritto del giurisdizionalismo metteranno, è vero, l'exequatur in place. L'exequatur per la esecutività delle norme o delle bolle pontificie, il place per l'accoglienza, quello che deve essere, diciamo, il gradimento per la nomina di un ambasciatore da parte della potente che lo riceve. Ecco, questo è lo schema. Si chiede, si può parlare, è un vecchio studioso dell'Università di Innsbruck, Andrea Galante, appunto, è stato un po' il primo a occuparsi di queste cose, ha addirittura intitolato il suo contributo, il suo volume, che è del 1894, Il diritto di placitazione e l'economato dei benefici vacanti in Lombardia. Questo titolo mi permette per qualche minuto di ricordare un altro istituto, un'altra istituzione che ha una certa importanza e una certa caratteristica per lo Stato di Milano. Dico appunto una certa caratteristica per lo Stato di Milano per rispondere anche o ricordare che tra me e Lohei c'è stata una certa polemica, perché Lohei mi ha accusato nel suo volume di vedere a Milano quello che in fin dei conti ci sarebbe anche nel resto d'Europa. Io credo invece, nel mio vecchio studio, di aver abbastanza caratterizzato la situazione milanese, e d'altronde io, quando ho fatto quello studio, non ho cercato di fare una comparatistica europea, e quindi ho presentato la situazione milanese. E poi, evidentemente, la situazione lombardo-milanese avesse delle somiglianze, avesse dei momenti come quello francese, del resto, se non di identificazione, come io non credo, di analogia con altre posizioni, questo è molto chiaro e verosimile. Ecco, economando dei benefici vacanti, l'altro istituto appunto è questo, cioè a Milano, parlo di Milano evidentemente, poi mi piacerebbe sentire proposte o aggiunte e notizie per altre aree italiane. A Milano avviene questo, che come l'ordinamento canonico prevedeva che nella vacanza di un beneficio l'amministrazione dei beni formanti quel beneficio fosse affidata a un amministratore chiamato economo, ci sono le la tradizione potrebbe risalire addirittura ai concili dei primi, ai grandi concili ecumenici dei primi secoli, quelli orientali. D'altra parte, proprio per quell'intervento di cui ho parlato nel prevenire la nomina da parte dei visconti, signori e duchi visconti, anche il duca comincia a nominare un suo economo, sicché però c'è questa concorrenza di amministrazione da parte di un economo canone, vero, ecclesiastico, e di un economo ducale. A un certo momento, ecco questo il punto, nella situazione milanese c'è l'accordo, e questo avviene dopo la dominazione francese, quando l'ultimo duca Sforza, Francesco II, nel 1521, se non sbaglio, riprende per qualche decennio il potere, che poi passerà agli Asburgo, a Carlo V, che già rivendicava il potere supremo, il dominium eminens sullo Stato di Milano. Ecco, quando Francesco II Sforza si accorda con il Papa per identificare la persona dell'economo, sicché, come ci ha detto già il Galante alla fine del secolo scorso, c'è questa caratteristica di una coincidenza che poi sarà conservata dall'Austria, o dalla Spagna meglio e dall'Austria, però adesso parlavo di Carlo V, come vero in senso vero l'intero, ma anche come poi vero tutti sanno che poi vero da Carlo V lo Stato di Milano passa vero al ramo asburgico spagnolo con Filippo II. Ecco, c'è questa caratteristica che si ha un economato ducale e apostolico, poi si dirà regio e apostolico, vale a dire vero, ci si mette d'accordo per nominare dalle due parti, per nominare l'economo nella stessa persona, per cui dal 1525 circa noi avremo questo istituto abbastanza caratteristico dell'economato ducale apostolico, che ha la funzione di conservare e trasmettere al nuovo nominato i beni formanti la massa del beneficio. Ma qual è l'aspetto, direi, politico di questa situazione? Che quando, bene o male, il duca ha modo di controllare il conferimento dei benefici, ecco che questo istituto dell'economato si congiunge, confluisce con quello della placet, perché evidentemente se il duca non concede il placet, l'economo a sua volta non concede al nuovo nominato il godimento dei benefici, e quindi la nomina resta sospesa nel vuoto e il beneficiato non è beneficiato perché manca, è vero, del supporto economico che forma la base del beneficio. Ecco, ho voluto delineare rapidissimamente questa linea, anche perché sarebbe bene che qui la potessimo confrontare e con altri esempi d'Italia, e poi specialmente, visto che il seminario è italo-tedesco, con situazioni dell'area germanica. Mi tocca. Mi allaccio allora con direttamente. Mi allaccio a quello che diceva. Per il caso toscano, che effettivamente è completamente diverso dal punto di vista formale da quello lombardo milanese. Cioè, a Firenze filtri giuridici preventivi non ci sono mai stati. C'è stato nel 300, nel periodo diciamo così più democratico dello Stato, un filtro nei confronti degli interventi della Curia Romana, seguente una sorta di placet successivo, una sorta di placet che però non è stato mai in pratica molto adoperato, e che poi anche de jure nel 1427, in una situazione politica diversa, viene abolito definitivamente. Qui, come diceva il professor Prosperi prima, bisogna tener conto dei legami d'antica data di natura commerciale fra Firenze, banchieri fiorentini e la Curia Romana. Però quello che a me, studiando questo caso dello Stato fiorentino, è parso di capire è che, anche se formalmente la situazione è diversa, di fatto anche in questo caso rientra poi nel quadro che delineava il professor Prosperi di rapporti forti fra gli stati, le autorità civili e la Curia Romana. Molto brevemente, penso che si possa dividere il discorso in due parti, come del resto era anche nella relazione del professor Prosperi. La prima parte, quella dei vescovi, la seconda quella dei benefici. Anche le mense episcopali sono benefici, però chiaramente lì c'è tutto un problema politico-diplomatico nell'assegnazione dei vescovati. Ecco, e quello che ho visto io studiando dal periodo della costituzione dello Stato territoriale toscano alla fine del 400, prima del 500, anche se Firenze non ha il diritto di fare una sorta di presentazioni di candidati nei casi di vacanza delle sedi episcopali come c'è a Milano, di solito riesce, se non altro, ad ottenere candidati non sgraditi. Ecco, facendo nel 1427 una fondazione nel capitolo cattedrale di 12 canonicati di patronato dell'arte della lana, che era un po' il grande blocco commerciale, economico, cittadino, Firenze è riuscita, come dire, a far crescere una specie di elite aristocratica cittadina, dalla quale poi sono venuti fuori in varie fasi tutti i vescovi, i dirigenti delle istituzioni ecclesiastiche dello Stato territoriale. Insomma, grosso modo la Curia ha accettato questa politica. Tant'è vero che le grosse eccezioni che ci sono, come per esempio la congiura dei pazzi, la guerra seguita alla congiura dei pazzi, che si collegano a uno scontro intorno all'assegnazione dell'arcivescovato di Pisa, sono appunto degli scontri violenti nati da un mancato accordo della Curia alle richieste fiorentine. Per finire questa prima parte sui vescovi, il professor Prosdocimi ha fatto un cenno alla burocrazia. Se ho capito bene, i vescovi vengono adoperati come diplomatici, come i rappresentanti, gli oratori dello Stato territoriale in Curia. A me pare che sarebbe interessante, sempre dal punto di vista dell'organizzazione burocratica, ma prettamente ecclesiastica e locale, dello Stato territoriale, studiare le figure dei vicari generali. Io ho cominciato molto ancora, insomma, le primissime fasi di questo aspetto per appunto la Toscana, e mi domando se non ci sia anche qui una sorta di promozione di un personale forse socialmente subordinato rispetto a quello dei vescovi, ovviamente, ma credo dal punto di vista amministrativo, burocratico, forse anche più importante. Per ragioni evidenti, i vescovi poi godevano le spoglie beneficiarie, poi però se ne stavano magari in Curia o altrove, mentre chi fa la politica ecclesiastica locale è il vicario. E qui, studiando i carteggi delle magistrature fiorentine che si occupano del territorio, si vede che i vicari sono sempre molto presenti in questi carteggi. Il controllo dei vicari è un elemento fondamentale della politica dello Stato territoriale. Passando alla seconda parte, che è quella dei benefici, io sono pienamente d'accordo con quello che diceva il professor Prosperi, usando il termine scorrevolezza. Qualche volta si immagina, è stato anche presentato questo rapporto fra gli stati e la Curia, le chiese locali e la Curia, come una violenta, banditesca ingerenza della Curia nei fatti della Chiesa locale, nei benefici della Chiesa locale. Invece nel 400 non è sicuramente più così, per quello che ho visto io almeno in Toscana. E c'è un doppio binario in questa politica curiale, cioè dare sì benefici ai funzionari della Curia, fare in modo di poter mantenere in Curia personaggi che svolgevano loro precisi compiti in questo organismo che si andava burocraticamente accrescendo, ma anche fare pagare le tasse, cioè dare benefici da Roma, benefici delle chiese locali da Roma, serviva prima di tutto come entrata fiscale. Ecco, nel 300, durante il papato avignonese, mi pare che questi due aspetti sono tutti e due molto presenti, cioè c'è soprattutto con Giovanni XXII la politica di allargamento fiscale, ma anche la politica di un'ingerenza pesante della Curia nelle chiese locali. infatti sono continui i motivi di frizione, perché il Papa assegna benefici della Chiesa locale come grosse pievi canonicati nei capitoli a persone che sono completamente estranee alla realtà locale. Poi naturalmente bisogna vedere quante di queste lettere papal che partono effettivamente hanno un esito. Per esempio, proprio nel periodo di Giovanni XXII, per i capitoli di Firenze, Pisa, Arezzo, c'è una quantità enorme di collazioni e grazie aspettative che poi non sempre trovano riscontro se si va a vedere la presenza reale nei capitoli. Comunque, diciamo così, un aspetto anche di intrusione violenta di estranei. Dopo la riorganizzazione della Curia alla fine dello scisma, mi pare di aver visto, qui semmai poi si potrebbe fare una parentesi dopo, come si può vedere, ma il professor Chietolini questo lo sa meglio di me perché ha in corso una ricerca sui libri Annatarum. E quello che ho visto io per Firenze è che continua larghissimo l'intervento filiale per la collazione dei benefici della Chiesa locale. Tutti i benefici di un certo rilievo dal 1420 in poi tornano ad essere collati in Curia. Però sono collati a persone non estranee alla realtà locale. O sono fiorentini, membri dell'aristocrazia fiorentina o delle aristocrazie delle città soggette, o sono persone in qualche modo interne alla clientela, poi da un certo punto in poi milizia soprattutto. Quindi cade secondo me questo aspetto di intrusione e di spoglio dei benefici locali. Però rimane il fatto che siccome il processo passava attraverso la curia, bisognava essere o essere rappresentati in curia. Il professor Prosperi ha già trattato l'argomento ampiamente parlando dell'importanza del cardinale. Il cardinale è, diciamo, il vertice di tutta una nazio florentina, nazio pisana, nazio aretina, eccetera, ma anche nazio patese, volterrana, la famiglia dei curiali, eccetera, che permette di elevare al cubo la potenzialità, naturalmente, di un gruppo di persone che si trovano qui. Anche qui un cenno brevissimo per finire all'aspetto burocratico, è una cosa che mi pare non è stata studiata per niente, ma c'è l'articolo di Dionisotti su Chierici e Laici, la creazione della curia, eccetera. E probabilmente sarebbe interessante vedere come questo convenire da tutti gli stati italiani, tutte le città italiane, a Roma, in curia, di intellettuali, chierici che erano intellettuali, membri delle classi dirigenti, eccetera, abbia contribuito a formare una classe dirigente, un funzionariato con caratteristiche meno municipali, meno locali di quelle del Taumano. Io trovo così interessante questa serie di contributi che vorrei che altri continuassero a portare elementi di ricerca freschi. Vorrei certo ringraziare intanto il professor Protoscimi e Zocchi per queste relazioni che danno concretezza a quelle che erano per me delle ipotesi e delle linee generali. Questi elementi sono, per quanto riguarda la tipologia dello Stato, se posso riprendere, sì, mi pare molto giusto, bisogna passare attraverso una tipizzazione, una tipologia delle forme del potere. Mi pare, ecco, che effettivamente la dimensione personale del potere e la sua relativa incertezza, la sua relativa mancanza di radici, caratterizzino questa fase dello Stato. Senza entrare però nella definizione se si tratti di Stato moderno alle origini oppure no, io mi trovo molto in imbarazzo davanti a questa terminologia, però sono d'accordo sull'esigenza e sulla caratterizzazione. Per quanto riguarda la relazione di questa ricerca di Pizzocchi, che mi pare molto, molto interessante sulla Toscana, sì, vorrei solo... Langsam, un po' più leggero. Per la ricerca sulla Toscana, ecco, io vorrei rilevare l'interesse di questa osservazione sul vicario vescovile, che effettivamente è un personaggio molto importante. Si ha l'impressione che la l'assunzione di dimensioni politiche e diplomatiche da parte dei vescovi, dell'episcopato in genere, abbia come contropartita la promozione sociale di un altro mediatore della vita religiosa, che è appunto il vicario. La figura del vicario meriterebbe un'indagine apposita, perché non è soltanto nella Toscana Medicea, ma anche nello Stato Estense che si possono trovare verifiche adeguate a questo riguardo, e del resto la trattatistica sulle funzioni del vicario, sui doveri del vicario, la manualistica, i testi sulle funzioni e il modo di assolvere queste funzioni sono molto nutriti in questo periodo, e se appunto la letteratura lamenta l'assenza dei vescovi, per ogni volta bisognerebbe verificare chi è che si trova al posto del vescovo. Spesso si tratta di persona molto più del vescovo preparata a funzioni di direzione ecclesiastica. L'importanza di questa figura è d'altra parte evidente se si pensa che il vicario è di scelta o di gradimento sovrano, ed è veramente un mediatore in loco del principe o dello Stato con la vita religiosa della Chiesa locale. Nel caso degli Estensi, le filze dell'archivio Estense hanno uno spazio apposito per quanto riguarda le nomine dei vicari e i rapporti appunto tra i vicari e il principe, e le carriere di queste persone sono molto eloquenti. Si tratta di persone che hanno preparazione giuridica specifica, rapporti di fedeltà col sovrano al quale riferiscono continuamente. Insomma, c'è una serie di dislocazioni nei processi della vita religiosa degli Stati italiani che aspettano di essere ricostruiti, e una serie di ruoli che vanno definiti. La figura del vicario mi sembra in effetti una figura molto, molto, molto interessante. Sì, per il resto forse è molto meglio che parlino coloro che stanno facendo delle ricerche su questo. Per quanto riguarda sì, le grazie aspettative, mi pare che questa storiografia che Barclay ha sunteggiato, riassunto in questo suo libricino che a me è piaciuto molto, aveva messo in evidenza questo problema, cioè che l'enfasi posta dalla letteratura contemporanea sopra la rapina violenta da parte della curia dei benefici più lontani va attenuata con la verifica di volta in volta se queste grazie andavano a buon fine, e ci sono episodi molto curiosi, qualche volta divertenti, di persone che ottengono concessioni su concessioni però muoiono senza essere mai riusciti a mandare ad effetto una di queste grazie. L'ultima osservazione sì, di Pizzocchi sulla formazione di un personale politico ad apertura cosmopolitica rispetto al limite municipale del personale politico ed ecclesiastico dell'età comunale, si fa riferimento ad un problema che è antico nella storiografia italiana, il problema del cosmopolitismo degli intellettuali italiani nell'età del Rinascimento. Insomma, certamente l'atteggiamento, la mentalità di tipo cosmopolitica è una caratteristica reale, poi ci si possono costruire delle interpretazioni complessive anche della storia italiana oppure no, ma sulla funzione di Roma in questo senso, su Roma come osservatorio sul mondo e su Roma come centro di formazione di personale cosmopolitico, mi pare che non si possano nutrire dubbi. Qualche volta si incontrano delle minacce di richiamare violentemente in sede tutti quei beneficiati che se ne stanno in curia, o di chiedere all'improvviso la residenza obbligatoria nei momenti di tensione fra principi e papa e papato. Io ho almeno presenti due casi, mi pare uno milanese e uno estense, ma probabilmente sono più numerosi, in cui a Firenze durante la guerra, ecco, dopo un giorno, già esattamente, sì, e quindi la minaccia di chiudere le frontiere e di chiedere il ritorno in patria. Ecco, questi sono però episodi che non lasciano tracce, perché la realtà è poi più forte, e anche se appunto sì, c'è questo attaccamento municipale, in realtà Roma attira molto più delle piccole patrie municipali. Sì, ma questi sono discorsi aggiuntivi. Dottore Pittorio. Ma ho l'impressione che l'intervento del professor Pittorini si colleghi meglio a quelli precedenti, per cui potrei cedergli. No. Perché il mio si inserisce in maniera, diciamo, un po' più marginale, perché non mi sono più occupato dei temi che sono oggetti della nostra discussione e quindi non sono in grado di portare contributi del tipo di quelli che abbiamo sentiti poco fa. Vorrei soltanto così fare una considerazione che ha anche un po' di carattere metodologico nella storia del Mezzogiorno. Cioè, il professor Prosperi accennava al fatto che spesso le diocesi meridionali sono assegnate a regolari perché le loro rendite sono modeste e quindi non interessano persone in grado di ottenere benefici di maggiore consistenza. Ora, questo è senz'altro vero, però penso che si debbano prendere in considerazione anche altre motivazioni per spiegare questo fenomeno che è storicamente evidente, cioè una maggiore presenza di regolari nelle diocesi meridionali. Ecco, allora può essere interessante osservare come una situazione del genere sia riscontrabile già molti secoli prima. Ad esempio, già nell'XI secolo abbiamo alla guida di diocesi meridionali dei regolari, in quel caso benedettini, che venivano spesso da Monte Cassino e successivamente anche da Capua. Ecco, può essere significativo tenere presente che quando l'arcivescovo di Salerno crea la diocesi di Policastro, il primo vescovo viene chiamato dal monastero di Cava, e il futuro abate, poi santo, abate Pietro di Cava. Ora, in questa presenza di monaci alla guida di diocesi meridionali, che è ancora evidente nel XII secolo, c'è poi una frattura rappresentata dall'età di Federico II. Ed è stato Norbert Kamp, il quale ha studiato, ha ricostruito la prosopografia di tutti i vescovi meridionali, appunto dell'età di Federico II, il quale ha messo in risalto come Federico II abbia perseguito un progetto, un piano di politica ecclesiastica molto molto chiaro e condotto a termine con determinazione. Cioè, il suo progetto era quello di creare una classe di funzionari dell'amministrazione reggia e di vescovi provenienti tutti dallo stesso ceto sociale, cioè la piccola e media nobiltà feudale, sia funzionari dell'amministrazione, giustizieri, camerari, sia i vescovi sono scelti nell'ambito di una classe sociale ben caratterizzata, cioè la piccola e media nobiltà feudale. Questo emerge in maniera evidente attraverso le prosopografie, cioè i vescovi hanno fratelli, parenti, giustizieri, camerari, impiegati appunto nella curia. Ora, questo intervento di Federico II crea una frattura, ecco, in questa situazione continua di presenza di regolari alla guida delle diocesi meridionali. Finito il regno di Federico II, ritornano di nuovo i regolari alla guida delle diocesi meridionali. Solo che questa volta non sono più benedettini, o perlomeno non sono più benedettini in maniera prevalente, bensì domenicani e francescani. Quindi allora c'è questa presenza di regolari alla guida delle diocesi meridionali, delle diocesi meridionali in maniera continua, ecco, almeno dall'undicesimo secolo fino all'inizio dell'età moderna. Ora, dal momento che la storia della Chiesa in Italia meridionale per il Medioevo è ancora poco nota, ecco, questo a volte diciamo, non mette i modernisti in condizione di poter valutare bene dei fenomeni che la documentazione del 5-600 permette di cogliere con maggiore chiarezza, no? E quindi ecco, la presenza di regolari alla guida delle diocesi meridionali alla fine del 400 all'inizio del 500, ecco, può essere interpretata soltanto così come, ecco, come scarso interesse, ecco, di secolari per queste diocesi, ecco, ma invece penso che si debbano prendere in considerazione altri fattori. Ecco, quali fattori possono spiegare questa presenza continua di regolari, diciamo, in una misura ovviamente poi da quantificare nel corso dei secoli alla guida delle diocesi meridionali. Ecco, ora può essere interessante considerare che i vescovi meridionali ancora nel XIII secolo fanno largo impiego di monaci per la cura delle anime. Cioè, mentre in Italia centro-settentrionale, tra XI e XII secolo, ecco, c'è un recupero del vescovo nel controllo della cura delle anime, e quindi diciamo, un ridimensionamento del fenomeno della esenzione di monasteri e abbazie dalla giurisdizione vescovile. Al sud, ancora nella prima metà del XIII secolo, ancora all'inizio del 200, i vescovi, e questo, diciamo, questo fenomeno l'ho quantificato in un prospetto, in un lavoro che è in corso di stampa, i vescovi continuano a concedere esenzione ai monasteri e continuano a concedere appunto ai monaci la possibilità di esercitare la cura, delle anime. E il fatto che molti vicari vescovili siano dei regolari, ecco, ancora una volta non sorprende il medievista, il quale appunto non può non collegare questo fenomeno con questa maggiore presenza dei regolari, prima benedettini e poi meditanti, nella cura pastorale, nella cura delle anime. Cioè, quindi, in effetti, ecco, sembra che questi regolari siano considerati, appunto, come diceva giustamente il primo professore Prosperi, come più adatti a esercitare la cura delle anime. Ora, ecco, un'altra cosa che vorrei sottolineare, e anche questo per consentire con quello che diceva il professor Prosperi, è che questi vicari, che sono spesso dei regolari, un po' potrebbero essere paragonati ai podestà dell'Italia comunale, cioè in effetti come se fossero dei professionisti della cura pastorale, per cui questi vicari passavano da una diocesi all'altra e spesso in maniera abbastanza rapida. E ripeto, no, le mie considerazioni così sono frutto anche, diciamo, di considerazioni di fatto in maniera incidentale, non me ne sono occupato espressamente. Sentendo trattare questi argomenti, così ricordo cose notate, così osservate in maniera incidentale. Ecco, ad esempio, a Cava o a Salerno, i vicari cambiano spesso, ogni 5-6 mesi i vicari vengono sostituiti e questi vicari passano poi da una diocesi all'altra. Ecco, quindi come se si trattasse di personale specializzato, ecco, a livello professionale. E quindi effettivamente l'assenza del vescovo, nel caso di Salerno ad esempio Giovanni d'Aragona, figlio del re Ferrante d'Aragona, il quale aveva una serie sterminata di diocesi e di abbazie in commenda che coprivano tutta la cristianità. Ecco, il fatto che l'arcivescovo sia assente dalla sua diocesi, ecco, non significa automaticamente crisi dell'attività pastorale, perché i vicari, anche se si succedono in maniera abbastanza rapida, svolgono un'azione pastorale, diciamo, di tutto rispetto, E infatti ho potuto così esaminare due visite pastorali svolte in assenza del vescovo da due vicari diversi, e si tratta di visite pastorali di un certo interesse, non puramente e così formali. Il visitatore si accerta della, diciamo, dell'idoneità dei cappellani, che spesso sostituiscono i direttori assenti, ecco, giudicano appunto l'idoneità dei cappellani a svolgere il loro ministero, entrano nei dettagli e il visitatore annota che quel cappellano non sa confessare, non sa dire bene la messa, quindi non si tratta di un'inchiesta puramente formale sulla suppellettile o sulle condizioni edilizie appunto della chiesa. Quindi effettivamente la presenza del vicario non significa di per sé stesso livello basso dell'attività pastorale. E quindi il fatto, chiudo, che questi vicari siano spesso regolari, secondo me si inserisce, ecco, in questo processo di lunga durata che al sud ha visto sempre un maggiore impiego dei regolari. E il fatto che i vescovi meridionali della prima metà del 200 ancora sollecitano appunto il contributo dei regolari alla cura pastorale, ecco, potrebbe spiegarsi così con una maggiore debolezza a sud così delle istituzioni ecclesiastiche, grosse parrocchie, oppure con la mancanza di personale, diciamo, di preti secolari idonei, con la mancanza di un, diciamo, con la presenza di un numero minore di centri di cultura. Al sud c'era soltanto l'Università di Napoli creata da Federico II, e invece al centro-nord c'è una distribuzione di scuole universitarie e non, diciamo, più diffusa. Ecco, quindi questo potrebbe aver creato al sud una minore disponibilità di personale così ad alto livello, di personale almeno qualificato sul piano culturale, sul piano teologico, di qui il maggiore impiego di regolari. Chiedo scusa, forse sono un po' frammentato, comunque si tratta di considerazioni fatte così al momento. Grazie, le osservazioni di Vitolo mi sembrano molto convincenti. Effettivamente io non ho fatto un controllo di lunga durata per questa presenza dei regolari. Sì, queste osservazioni fatte anche da Denisei mi sembravano convincenti. Certo, io penso a un caso concreto, per esempio penso ad un domenicano che si chiama Antonio Beccari, che è inquisitore in Emilia agli inizi del Cinquecento e poi diventa vicario di grossi personaggi curiali. È un uomo molto preparato, e teologicamente molto preparato, e fa di professione il vicario, riceve un titolo vescovile in partibus infidelium, però passa la sua vita da una diocesi all'altra e finisce prima nell'Italia settentrionale e poi subito per l'Italia meridionale, dove passa da Brindisi a Capua, sostituendo persone come Girolamo Aleandro, quindi un cardinale, grande diplomatico. Insomma, i ruoli sono sempre questi: il titolare fa dell'alta diplomazia, il titolare di grosse sedi in questo caso, al suo posto c'è un vicario. Allora, intanto questo regolare viene dal nord, cioè diciamo non rientra in quella, diciamo, in quella causa della maggiore densità, diciamo, di presenza dei regolari al sud che è stata indicata. Ma anche i primi regolari spesso sì, venivano certo. Dal nord. Allora, perché sì, forse pone questo problema del perché negli stati centro-settentrionali si preferiscano vicari appartenenti al clero secolare, mentre al sud si lascia che avvenga quello che spontaneamente avverrebbe, cioè che si faccia ricorso a frati che sono teologicamente preparati, garantiti, in grado di fare bene il loro mestiere. Ecco, evidentemente, qui torniamo sul discorso dei vicari vescovili, evidentemente negli stati centro-settentrionali il vicario svolge una funzione di tramite diretto in un collegamento molto stretto fra il sovrano e il suo territorio, di cui al sud non si sente il bisogno, cioè le forme di dominio sono diverse, mi pare che si possa avanzare questa ipotesi, le forme di dominio sono diverse, al nord c'è, centro-nord c'è questo controllo sugli affari più minuti che si svolgono, diocesi per diocesi, controllo sovrano, io spero che la Zarri ci racconti qualche cosa di Urbino in questo senso, questo controllo diretto del sovrano, e allora la presenza di un religioso, l'affidamento della funzione di vicario ai religiosi che hanno i loro ritmi di avvicendamento e hanno dei quadri territoriali di movimento molto ampi, superiori a quelli dello Stato, finisce con l'andare contro gli interessi del principe che ha il problema di dominare, di controllare, di selezionare il suo personale di governo più da vicino. Mi pare che sì, sia un dato interessante che mostra come la figura del vicario sia quella di un protagonista con cui fare i conti, insomma. Scusa. Se mi consente, vorrei soltanto aggiungere un'altra cosa. Cioè, la situazione politica dell'Italia meridionale è diversa da quella dell'Italia centro-settentrionale, perché c'è un grosso centro di potere, la monarchia, la quale nell'undicesimo, così tredicesimo secolo, deve ancora affermare il suo ruolo in antagonismo con la nobiltà feudale. Ecco, invece, almeno dalla metà del 400, con l'avvento della monarchia aragonese, i rapporti di forza ormai sono definiti in maniera chiara a vantaggio della monarchia, e quindi gli esponenti della nobiltà feudale, così ad alto livello, vengono indotti, anche in qualche caso costretti, a trasferirsi a Napoli, e quindi non c'è sul territorio una rete di centri di potere di una certa consistenza. Si tratta di piccoli feudi, di piccoli centri con numerose famiglie feudali. Ad esempio nella diocesi di Capaccio, che era una delle diocesi più povere, c'era un numero sterminato di baroni, di conti e di principi, e addirittura ridicolo la presenza di molti principi in un piccolo territorio. Ora, la presenza appunto di queste piccole famiglie, ecco, crea le condizioni per cui ci sia un minore controllo anche dei benefici ecclesiastici, cioè non ci sono molte persone in grado di esercitare una pressione consistente sulla curia romana, perché quel beneficio sia assegnato a una persona anziché ad un'altra. Ecco, penso che anche questo elemento debba essere preso in considerazione, non soltanto la scarsità delle rendite, ecco, ma anche la mancanza in loco di persone, di famiglie in grado di esercitare una pressione paragonabile a quella del vestenzio di Milano. Ecco, questa frantumazione del potere crea un quadro politico-sociale diverso rispetto all'Italia centro-settentrionale. Vorrei aggiungere qualcosa. Vitolo scorda la differenza totale della struttura politica del sud dell'Italia meridionale rispetto al nord. Io aggiungerei anche la differenza estrema che c'è tra l'organizzazione ecclesiastica del nord rispetto al sud. Al nord abbiamo delle grandi metropoli come Aquileia per prima, quella metropoli che arrivava alla Drava per dire quando Castro Magno l'ha limitata, perché arrivava nel nord senza confini, all'est vero, arrivava nel mondo della slavo, insomma dell'Europa orientale. Abbiamo la grande metropoli di Milano, erede di averlo impiantato in una città che era stata nel IV secolo residenza capitale dell'impero. Abbiamo poi Ravenna, una metropoli che ha sempre rivendicato la sua una certa indipendenza, una certa autonomia anche da Roma, sentendosi legata in qualche modo a Bisanzio. Ecco, quindi abbiamo una situazione di grandi metropoli e poi di diocesi consistenti, con un clero secolare legato a questi centri, mentre nel sud abbiamo una polverizzazione più piccola, anche nel centro dell'Italia, una polverizzazione di piccole diocesi, quasi quasi vero corrispondenti a poco più che a parrocchie, per cui e per cui la situazione è estremamente diversa. E allora si può capire come il clero secolare del mondo dell'area del nord avesse per una funzione e avesse una coscienza di una chiesa locale potente, mentre al sud tutto questo non c'era, come c'era l'unico centro di potere vero, nel Regnum, forse Palermo, forse Napoli, e c'era dal punto di vista ecclesiastico un legame maggiore con Roma. E allora ecco che anche l'utilizzazione del clero regolare, frati vero, dei vari ordini, mendicanti o altro, e si spiega perché in fin dei conti gli ordini, e forse ce lo vedrà meglio la signorina Domani, la signorina Zarri, e gli ordini, i grandi ordini, non monastici, ma regolari mendicanti, sono stati il tessuto collettivo che ha particolarmente è servito a Roma per tenere unita il tessuto del mondo ecclesiastico, al di là di quelle divisioni che allora ancora pesavano delle chiese locali, delle tradizioni delle chiese locali. Si chiedono l'utilizzazione dei religiosi è uno strumento di centralizzazione molto importante. Ecco quindi che anche nello studiare queste cose forse bisogna non solo tenere conto dei rapporti tra il principe di questo, di quello stato e la curia e il papato romano, ma anche le chiese locali. Non per niente io l'ultimo saggio che ho uscito quest'anno in questo tema l'ho intitolato Lo Stato sforzesco di fronte alla Chiesa milanese e al papato. Ho voluto cioè sbloccare un po' la tendenza a vedere soltanto il rapporto Roma e la sede o il potere vero principesco locale. C'è di mezzo, almeno per l'Italia settentrionale, anche il peso della Chiesa locale, che ha una tradizione alle sue spalle grandissima, cosa che invece per il sud invece è diversa. Poi c'è la tradizione della monarchia sicula e il patronato stabile di Sicilia, che cambia tante cose. Professor Matuschka e dopo Professor Kipling. Ja, darf ich hier als Nichtfachmann eine Frage stellen, die sich an Herrn Kollegen Prosper richtet. Er hat am Anfang betont, dass die Vorwürfe an Rom, des Pfründenhandels, das ganze Pfründenwesen, die ja mit einer der Gründe dann für die, jedenfalls im Zusammenhang mit der Reformation stehen, vor allem vom Norden kommen, obwohl es auch in Italien gibt den Vorwurf, nicht wahr, der Geldgierigkeit und so weiter. Nun wollte ich fragen, wir haben jetzt eben gehört von diesen Pfründen, dass dieses Pfründenwesen, dass die Benefizienverteilung in den italienischen Staaten ein unendlich kompliziertes Geflecht sind. Während die Vergabe der Pfründen für die Gebiete nördlich der Alpen und außerhalb vorwiegend eine finanzielle, ich möchte mal eine ganz grobe Generalisierung sagen, eine finanzielle Seite gehabt haben. Natürlich, wir sprechen mit Recht, und das gibt es, einen Kosmopolitismus der italienischen Renaissance-Kultur, einen Kosmopolitismus der Kirche durch das Latein und so weiter. Dennoch ist sicher, das ist ja eine Binsenwahrheit, sicher ein Grund dafür, dass die Barriere der Alpen rein schon geografisch und dann vor allem sprachlich und kulturell dafür dahin gewirkt hat, dass nicht so viele Leute aus, sagen wir, Deutschland an die Kurie gekommen sind, um dort Pfründen zu erhalten. Andererseits auch für die Angehörigen der römischen Kurie diese Gebiete nicht so interessant waren oder sagen wir nur finanziell interessant waren und nicht von der Aufgabe her, denn wenn ein Italiener wie Enea Silvio Piccolomini eben einmal durch seine Karriere nördlich der Alpen verschlagen wurde, hat er das doch in gewisser Hinsicht als eine Art von Exil betrachtet und hat danach gestrebt, doch möglichst bald wieder nach Italien zu kommen, was auch rein klimatisch und aus anderen Gründen durchaus verständlich war. Aber nun gibt es noch eine Sache, die mir jetzt aufgefallen ist und vielleicht also eine ganz dumme Frage ist, aber ich möchte diese Frage doch stellen. Es gibt vielleicht noch einen anderen Grund, dass diese Verflechtung zwischen den italienischen Staaten und der Kurie so viel enger war. Abgesehen, wie gesagt, vom geografischen, abgesehen vom sprachlichen, vom kulturellen und so weiter. Und das ist mir aufgefallen, wie Professor Prostocimi das Wort vom Defectus Tituli gebraucht hat. Und das ist also ganz deutlich bei dem von beiden Herren, von Herrn Prosperi und von Herrn Kollegen Schimmelpfennig, entschuldigen Sie, wenn man alt ist, fallen einem plötzlich dann Namen einen Moment nicht ein. Ja, also von Herrn Kollegen Prosperi und Herrn Schimmelpfennig angeführten Fall der Medici. Wir haben doch in den italienischen Staaten vielfach homines novi oder neue Familien. Und die Medici sind also ein besonders krasser Fall. Das heißt also, Leute, wir haben Tyrannen, wir haben Stadttyrannen, wir haben anders als das nördlich, darauf will ich später zurückkommen, der Fall ist, haben wir die Hierarchie nicht, oder der Staat, den Staat und auch entsprechend die Hierarchie nicht so fest in der Hand einer festgefügten Reichsaristokratie. Der extreme Fall, die Medici, ein Kaufmannsgeschlecht, das eben in die höchste Spitze der regierenden Häuser Europas aufsteigt. Und so haben auch diese Familien dann notwendig die Legitimation durch die älteste und legitimste Kraft in Europa und natürlich in Italien durch die Kurie. Das heißt, diese neuen Geschlechter, diese Stadttyrannen oder eben der Fall der Medici brauchen diese Legitimation. Daher ist es für den Lorenzo notwendig, dass sein 13-jähriger Sohn das Kardinalat hat. Ich möchte als Beispiel dafür noch anführen, etwas, was zeitlich aus unserer Zeit kommt, aber zeigt, wie stark dieses Gefühl bei den Medici war. Das ist das ungeheure Fest, das größte Fest angeblich, das Italien erlebt hat seit der Antike. Das ist die Hochzeit des Sohnes von Cosimo dem Ersten, von Francesco, mit der Erzherzogin Johanna, also der Tochter eines römischen Kaisers, eines eben Verstorbenen und Schwester des regierenden römischen Kaisers, wofür dieser Cosimo durch Vasari fast ganz Florenz verändern lässt mit Triumphbogen, ein Fest, das also fast ein ganzes Jahr dauert. Heute ist von diesem ganzen Apparat sind nur mehr die Bilder Deutschland, der deutschen bzw. eigentlich der österreichischen Städte im Cortile del Palazzo Vecchio, die man mit größter Mühe und aus Deutschland dann mit diesem Prospektive-System kommen hat lassen, per fare una grata sorpresa all'Augusta Principes Consorte, die dann sehr schlecht behandelt worden ist, aber das ist eine andere Frage. Jedenfalls hier auch das Bedürfnis, nicht nur die Medici, das Kaufmannsgeschlecht, das jetzt zu den ersten Dynastien gehört. Und diese Situation ist in Deutschland nicht. In Deutschland ist umgekehrt das andere, dass die Reichskirche ganz fest in der Hand der alten des alten Reichsadels und der herrschenden Geschlechter ist, und nicht umsonst nimmt ja dann die Reformation auch Ausgang von der Pfründenhäufung eines Albrecht von Brandenburg, oder steht jedenfalls damit auch in Zusammenhang. Also die Beschwerden sind hier ganz innerhalb der Reichskirche ganz anderer Art, sind eben diese Pfründenhäufung, auf die man natürlich von Rom aus Rücksicht nahm, weil das die führenden Geschlechter waren. Also ich wollte fragen, ob diese eine gewisse Unsicherheit, nicht alle, es gibt ja die Estense, sind ja also Welfen und so weiter, und es gibt, durchaus, aber es gibt in Italien doch vielfach politische Instanzen, die unsicher sind, die nicht so fest traditionell gefügt sind wie die werdenden Landesfürsten nördlich der Alpen. Diesen Vergleich, da möchte ich eine Frage stellen. Io sono molto grato al professor Vandusca di avere posto questo problema, ma in realtà sono d'accordo con la ricostruzione del rapporto fra stati italiani e stati tedeschi che sta dietro la domanda. In realtà era un presupposto del mio discorso questo, che nel gioco tra i principi italiani e la curia e il papato, in questo gioco in cui la chiesa locale la chiesa locale tende ad essere utilizzata, emarginata e messa a tacere. Ecco, in questo gioco un elemento fondamentale del dare ed avere è la legittimazione che dal papato viene a delle sovranità che si stanno radicando nel territorio. Il problema della nascita, della ramificazione di uno Stato territoriale è, come tutti sanno, un problema fondamentale della storia italiana, una caratteristica originale della storia italiana di quest'epoca. Ecco, e allora in questo senso il papato può concedere legittimazione, sicurezza, in cambio di un corrispettivo riconoscimento. Prestigio, certo, che ha tanta importanza. Sì, molta importanza. E questo ci riporta anche ad una delle caratteristiche fondamentali degli stati italiani, cioè la loro caratteristica cittadina, urbana. Cioè non siamo in presenza di una aristocrazia che controlla saldamente il territorio e che può tenere in pugno anche le città o condizionarle e non le teme. Non siamo in presenza di un'aristocrazia di questo tipo, che caratterizza, mi pare, invece lo stato territoriale tedesco. Siamo invece in presenza di famiglie che emergono in un universo cittadino e hanno il problema di controllare le altre famiglie, di gratificarle con una distribuzione oculata dei benefici ecclesiastici e di mettere poi le radici nel territorio. Allora, in questo senso il confronto mi sembra che si faccia molto stimolante tra la storia italiana e la storia tedesca, e io sono molto d'accordo con le osservazioni del professor Vandusca, sono molto grato. Brevemente volevo toccare due punti della relazione di Prodi. Uno è quel concetto di abuso, quella sottolineatura che ha fatto dell'opportunità o meno di usare questo termine abuso in relazione alla provvista dei benefici. È una cosa che ha colpito anche me, il fatto che una prassi che in un'ottica post-tridentina in un'ottica che spesso è assunta anche dalla nostra coreografia, si parla genericamente di abuso, ecco, gli stessi fatti nell'ottica dei contemporanei abuso non erano, insomma. Appunto la grande, la legittimità della disponibilità di benefici per tutte queste varie incombenze o di Stato o di curia. Ecco, con una eccezione direi, che mi pare si viene delineando nel corso del 400, ed era su questo che volevo chiederti, i benefici con cura d'anime. L'impressione è che nel corso del 400, mentre non si batte ciglio sul fatto che un canonico, che un vescovo non risieda, non parliamo di abati commendatari, eccetera, là dove c'è la cura d'anime scatta la sensazione dell'abuso, non tanto perché la provvista viene da Roma, ma perché è considerato ormai un preminente un impegno pastorale della Chiesa che ha la cura d'anime. Del resto è in questi 300-400 questa grande proliferazione di diritto e di fatto di chiese con cura d'anime, e si avverte anche per tutta una serie di motivi così religiosi e devozionali, molto più di quanto non fosse prima, mi pare, l'esigenza di un prete che faccia residenza, ecco, che amministri la comunione, che sia presente quando si muore, ecco, da quando in qua, quando si muore si vuole il prete vicino. Non è un'esigenza... è un'esigenza perlomeno che si avverte molto, non so, nel corso del XV secolo, si avverte meno forse in periodi precedenti. Ecco, allora, quando il beneficio è di cura d'anime, allora il senso dell'abuso, quando il beneficio non è presenziato, mi sembra vivissimo. E in questi casi, fra l'altro, è interessante notare come interviene spessissimo l'autorità laica, no? Il principe e le comunità. Veramente, direi anche per questo, rifacendosi al discorso che si faceva ieri, una contrapposizione pietà laicale, istituzioni ecclesiastiche, risulta difficile se posta in termini così drastici, perché in realtà ci sono tante istituzioni, tante forme di istituzioni ecclesiastiche, fra cui la Chiesa curata, che il principe o la comunità vogliono presenziare. C'è un caso, per esempio, cioè l'attenzione del principe, dico principe per dire un signore territoriale, su questo mi sembra molto, molto forte, in certi casi fin ostentata. Adesso un vescovo, credo, della Zaga, cui non voglio togliere più. Sono d'accordo con quello che stai dicendo, è molto confermato dal caso. Ecco, no, fra l'altro capita questo, c'è un vescovo nel territorio Urbinate che per caso è prevosto di una chiesa milanese. Il duca di Milano gli scrive: noi qui a Milano costumiamo che i nostri preti stanno qui, quindi anche se tu sei vescovo là, devi venire qui a fare il preposito di, non so se mi pare, San Nazaro, cioè una chiesa non importante ma di un certo prestigio e comunque che aveva cura d'anime. Ecco, su questo volevo chiederti. L'altro punto è, brevemente, per associarmi a quello che del resto è stato detto da Bizzocchi, se ne parlava ieri pomeriggio, che hai detto del resto tu, ha detto anche Prodocimi, appunto la difficoltà a contrapporre nella materia dei benefici, della provvista dei benefici, troppo drasticamente, Stato e Curia Romana. E questa forse è una tradizione che ci deriva da come il diritto, la storia del diritto ecclesiastico italiano fino all'800, primi 900, ha studiato queste cose, cioè Stato, Chiesa, e che dobbiamo ringraziare perché sono gli unici materiali di cui adesso disponiamo per avviare queste ricerche. Solo che in queste ricerche è preminente proprio l'esigenza di distinguere nettamente lo Stato da una parte e la Chiesa. Ecco, adesso direi che da quello che salta fuori, questi concetti si stanno un pochino sgretolando, perlomeno sia lo Stato da una parte o il principe, sia la Curia Romana dall'altro, diventano degli organismi molto più duttili e più mobili, che sono capaci di farsi portatori di esigenze spesso anche contrapposte a quelle che dovrebbero essere le loro vocazioni istituzionali. Per esempio, nel caso di Milano, Il principe afferma in linea di principio, e su questo è rigidissimo, che non si deve dare nel suo dominio beneficio contro la sua volontà. Però di fatto a chi dà questi benefici? E allora ritroviamo che il principe, ovvero lo Stato, molte volte si fa propugnatore, lo dicevi mi pare indirettamente tu, non so, di curiali, persone legate a cardinali che fanno la politica degli sforzi. Oppure si va a proporre, il caso più comune bisogna dire è quello dei cortigiani, c'è tutta l'area di influenza della corte sforzesca che in quella grossa riserva di rendite che è il beneficio ecclesiastico deve naturalmente attingere e prospera. Però appunto c'è questo caso abbastanza frequente di, non so, una candidatura pontificia contrapposta a una candidatura milanese, ma magari la candidatura pontificia è di un milanese, la candidatura del Duca di Milano è, adesso io lo vai a... un altro elemento interessante è questo, le chiese locali, per così dire. E anche qui è abbastanza singolare e può capitare il fatto inverso, cioè mettiamo un canonico novarese, che vuole un beneficio e non è del partito del Duca, che modo ha di averlo? Allora è la curia romana, c'è questo meccanismo, di compensazione. Appunto si diceva, di larga presenza di cittadini presso la curia che funzionano come cinghia di trasmissione fra le richieste locali e la provvista, che in questo caso viene dalla curia romana, ma anche in questo caso la curia funziona come un meccanismo neutro, se non totalmente neutro, che permette di ridistribuire anche a vantaggio non già di curiali o di gente strana, ma proprio di persone del luogo, questi benefici. E direi è un mondo molto, molto mosso e molto interessante, e per questo credo che si capisca molto con quel tipo di fonte che sono presenti i carteggi interni o i carteggi con Roma, che sono stati più volte evocati, forse più degli atti formali e ufficiali di provvista, perché vedendo appunto la trafila del conferimento del beneficio e le reazioni che si suscitano, si capisce meglio forse quali sono le forze politiche che stanno dietro. Ecco, insisterei su forze politiche più che sul fatto di questioni personali cioè quando si dice il conferimento del beneficio diventa una questione di scontri di persone, senz'altro. Direi che questi scontri di persone, queste persone, queste famiglie o questi gruppi ancora adesso possono essere abbastanza facilmente ricondotti ad aree politico-territoriali precise, insomma. Ecco, non è soltanto, per dire molto rozzamente, una mafia di personaggi che sono, c'è un gioco di persone che è espressione o strumento di aree di potere ancorate a certi territori, a certi gruppi familiari, più che non sia un gioco neutro e distaccato da tutto questo sistema di equilibri politici degli stati del Rinascimento. Scusa la lunghezza. No, grazie. Posso... grazie per queste osservazioni. Dunque, l'importanza della cura d'anime e delle esigenze nuove, quando cominciano queste esigenze, quando si comincia a denunciare come abuso la mancata presenza dell'ecclesiastico. Ecco, questo mi pare pone un problema molto, molto importante e molto interessante. La datazione che tu tendi a proporre mi pare è il 3-400. Sì, però coincide con altri elementi periodizzanti come le arti del ben morire, la peste nera e molte cose che possono essere evocate. E dal punto di vista dell'organizzazione ecclesiastica probabilmente coincide anche con una maggiore ramificazione e presenza. Comunque, ecco, raccoglierei questa indicazione nel senso che ci porta una volta di più a superare la crisi del Cinquecento, della riforma e della controriforma come elemento periodizzante per risalire molto a monte di fenomeni che a quella data poi arrivano e subiscono certamente gli effetti della riforma e della controriforma. Per esempio, un effetto negativo del polarizzarsi dell'attenzione sulla riforma, sulla crisi religiosa del Cinquecento, è stato l'aver visto il documento Visite pastorali e le proteste contro la non residenza come documenti e proteste tipici dell'epoca tridentina. In realtà poi gli scavi documentari, le ricerche concrete stanno a dimostrare che queste forme di controllo e di presenza del clero secolare sul territorio sono molto più antiche nella storia italiana, che c'è una sedimentazione di documenti in questo senso. Ecco, cioè le fonti ci contraddicono e non permettono queste forme di pigrizia concettuale che tende a far tornare tutti i conti intorno alla data più drammatica e al momento di crisi religiosa europea. La denuncia dell'abuso della non residenza è certamente molto forte, i documenti quattrocenteschi sono molto, molto espliciti in questo senso, le lamentele delle comunità per la mancata presenza, soprattutto dell'ecclesiastico nel momento della morte. Questo è il momento in cui è il passaggio fondamentale in cui la presenza dell'ecclesiastico viene desiderata. E questo rimanda poi anche a modificazioni del sentimento religioso e della pietà popolare e della vita religiosa che vanno al di là, diciamo, del discorso sui benefici, però in qualche modo modificazioni nell'uso dei benefici nascono anche da qui, quindi l'osservazione mi pare giustissima. Sì, per il resto sì, d'accordo sulla non contrapponibilità, sulla necessità di non contrapporre Stato e Curia Papale. Del resto anche nella discussione di ieri si è ricordato questa somma di attribuzioni religiose delle città e dello Stato. Per esempio, la funzione fondamentale della predicazione è un'attribuzione nel governo della vita religiosa collettiva che spetta a quelli che retrospettivamente adesso indicheremmo come istituzioni politiche, istituzioni di governo, istituzioni non ecclesiastiche. Ecco, in realtà nel mezzo ci sta la Chiesa tridentina e la contrapposizione chierici-laici. Il saggio di Dionisotti è importante anche in questo senso, perché ha mostrato nella storia della letteratura come fossero più fluidi i confini fra chierici e laici. È un'osservazione che va trasportata nel nostro ambito per ricordare che il laicato come categoria nasce quando nasce l'ecclesiastico. Io ho evocato la figura dei chierici di questo livello zero della gerarchia ecclesiastica, che non sono né ecclesiastici né laici, e tuttavia la popolazione ecclesiastica dell'epoca aveva in questa figura uno dei suoi esponenti più numerosi. Ecco, il Concilio di Trento farà scomparire la figura del semplice chierico in attesa di benefici, come farà scomparire tante altre figure intermedie, per esempio dal mondo dei conventi e dei monasteri. Tante figure si troveranno costrette a negarsi, a scomparire, perché bisognerà erigere dei confini fra i laici e gli ecclesiastici, e saranno confini molto netti, e per gli ecclesiastici si partirà dal presbiterato, gli ordini minori scompariranno tendenzialmente, e così via. Quindi questo, diciamo, è solo un caso specifico di questo problema generale che è posto dalla fluidità dei confini pre-tridentini tra questi due mondi. Sì, per il resto sono d'accordo e ringrazio. Sì. Herr Schimmelpfennig, Achso, was das zurückkommt, was Herr Patruschka auch bemerkt hat, und das ist ja dann auch vielleicht ganz wichtig, damit wir heute Nachmittag dann den Zug zu heute Vormittag herstellen und Beispiel Augsburg nochmal gehen. Um 1400 gab es Bürgersöhne, die im Domkapitel waren. Als dann die Kirchenreform in Augsburg durchgeführt wurde, war eines der Ziele, den Adel wieder, das Domkapitel wieder nur dem Adel zu reservieren. und in den 70er Jahren des 15. Jahrhunderts wurde dann ein Kirchengeschichtsprivileg erwirkt, dass in das Domkapitel nur Adlige rein dürfen. Kurz danach versucht der neu aufgestiegene reichste Bürger der Stadt, nämlich Fugger, für seinen Sohn sein Domkanonikat zu bekommen. Folge 18 Jahre Prozess an der Kurie, aber kein Erfolg. Und während ein anderer Sohn der Stadt, weniger reich, durch den Aufstieg am Hofe Maximilians, nämlich Matthäus Lang, dann Kardinal wird und als Kirchenfürst, dann natürlich dem Domkapitel und dem Bischof in Augsburg im Zeremoniell und so weiter vorangestellt wird. Das heißt, zu Hause schafft man es auch, wenn man noch so reich ist und Einfluss sonst ausübt, nicht das Ansehen zu steigern. Solange man nicht adelig ist, nimmt man den Umweg, entweder Karriere am Kaiserhof oder Karriere an der Kurie, dann ist der Weg auch in Deutschland, zumindest in Oberdeutschland, leichter. Das heißt, Jakob Fugger hat den falschen Weg gewählt. Hätte er versucht, ähnlich wie Lorenzo Medici, sich ein Kardinalat zu kaufen, mehr oder weniger, hätte er es geschafft. So ging es also zu Hause im engen Augsburg nicht. Da merkt man vielleicht auch die Unterschiede, vor allem wenn man bedenkt auch noch, was Herr Bizzocchi sagte mit den 12 neuen Kanonikaten 1527 in Florenz. Das wäre halt auch nicht möglich gewesen, selbst nicht in einer reichen Stadt wie Augsburg. Ne? Ja, Bizzocchi. Ma volevo fare una domanda di tutto lì. Non so se ho capito, quando dicevi della differenza tra le collazioni curiali di benefici curati o no, cioè c'è più sensibilità all'intervento su un beneficio curato, no? Sì. Questo fa sì che complessivamente ci sono meno collazioni papali di benefici curati. La mia impressione è questa, però è molto, molto vaga. Però per lo Stato di Firenze? Sì. Perché per lo Stato di Firenze mi sembra assolutamente di no, cioè il canonicato vale esattamente come una chiesa parrocchiale da questo punto di vista. E mi domando se la spiegazione non potrebbe essere questa, se a Firenze si spiega così il fatto è se e come mai non si spiega così altrove, allora se è diverso di me. Non c'è dubbio che è grave il fatto di non avere soprattutto il punto di morte, il prete, e quindi tutte le lamentele, eccetera. Però questo problema si poteva risolvere col sostituto, e c'era dietro tutta una tradizione di diritto canonico che spiega anche come si deve nominare, quanto lo si deve pagare, eccetera, eccetera. Cioè, come mai questi non hanno risolto il problema? No, ci piace togliere spazio rapidissimamente. Io mi ero segnato il problema del cappellano, non ho parlato per verità. Io ho detto, prima di tutto, esiste più forte tutta una letteratura contro il cappellano. Nel senso che il vescovo dice quando una chiesa non è affidata al suo proprio padrone, la chiesa in cura d'anime, ma è subaffittata a un cappellano o peggio ancora a un affittabile, non la fermace. Allora no, le cose non funzionano. E questo lo dicono le comunità e lo recepisce anche il Duca. Quindi il cappellano era una soluzione in effetti molto largamente praticata in questi casi. Era considerata una soluzione inferiore, cioè di minor resa, rispetto a una insistenza perché il prete con cura d'anime facesse residenza. Non so se ho risposto in parte. Rispetto poi all'altro problema, di quante fossero le provviste papali relative alle chiese con cura d'anime, io noterei anche questo, che le chiese per cui la provvista passava da Roma erano in genere chiese grosse, cioè con prebende piuttosto consistenti, che sono forse una piccola parte rispetto all'universo delle chiese con cura d'anime, che hanno dei benefici spesso tanto piccoli, per cui di fatto di diritto non era il caso di fare le spese di un'impetrazione a Roma per avere il beneficio. Quindi rispetto alle chiese che vengono con cura d'anime, che vengono concesse tramite Roma, penso anch'io che l'impressione possa essere di una così non differenza rispetto ad altri benefici non curati dello stesso valore. Proporzionalmente al numero delle chiese con benefici bassi, allora l'impressione almeno per Milano è che ci sia una forte presenza di curati residenti. Altre domande? Sì. Io mi inserisco in questo tipo di discorso che è venuto fuori adesso proprio per dire che nel Ducato, nelle diocesi del Ducato di Montefeltro, che sono 5 piccole diocesi, dal 400 sono 5, poi aumenteranno, diocesi di media grandezza con non eccessive rendite, sono pochissimi i benefici di collazione papale, veramente molto pochi, sia per le chiese curate sia anche per i lamentati. Quindi probabilmente una delle spiegazioni è proprio quella che tu dici. E in ogni caso si contano proprio numericamente, perciò i vostri discorsi che facevate rispetto a Firenze o a Milano, insomma, qui non trovano riscontro. Soprattutto bisogna dire ancora che è già stato raggiunto un controllo da parte del principe su tutti i benefici, ovviamente un controllo degli indulti, è una cosa un po' casalinga, insomma, no? E questo fatto emerge molto chiaramente da un documento che è abbastanza interessante e che è tutta una serie di lettere che i principi inviano ai vescovi di una diocesi che ci sono conservate. Queste lettere dal 1460 al 1482 riguardano quasi esclusivamente i benefici, la provvista dei benefici, ma riguardano anche altri problemi della giurisdizione ecclesiastica, specialmente l'intervento sempre presente del principe in questione riguardante il loro scoprimento. Ma comunque, per attenerci al problema della provvista dei benefici, appunto, si può vedere che quasi tutte le provviste beneficiarie passano attraverso l'approvazione del principe, anche quelle poche che vengono da Roma. Cioè, si dice esplicitamente il caso in cui un sacerdote ha ricevuto una collazione a Roma, si presenta al principe, il principe lo approva, lo invia al vescovo e dice: a me sta bene, se sta bene per voi, insomma, no, quindi c'è questo controllo. Per quello che riguarda poi l'altro problema che sollevava sempre Chittorini, secondo me è molto giusto, cioè il fatto che nei benefici curati si richiede la residenza, richiamandosi spesso a quelle motivazioni che anche tu dicevi, cioè i parrocchiani sono stati i fondatori dei benefici, hanno quindi diritto che si chieda a un prete che è loro gradito, quindi qui c'è una mediazione. Riguardo le chiese rurali, il principe in prima istanza vuole che sia gradito il parrocchiano, poi magari se c'è qualche caso specifico passa sopra, ma come regola c'è questo lì. Rispetto quindi a quell'antico diritto di giuspatronato dei parrocchiani. Il problema della diffidenza verso i cappellani, che questo si riscontra molto chiaramente in una di queste lettere, dice: se il parroco non fa il suo dovere, come lo farebbe il cappellano? quindi anche questo è riscontrabile. Un altro aspetto che mi sembrava interessante rispetto al problema dell'abuso è proprio relativamente alla perdita dei benefici, però dei benefici curati. In questo caso il Duca non permette molto frequentemente la perdita, o se lo permette dice sempre che si controlli che non ci sia simonia. Quindi mi pare appunto che in questo caso specifico venga considerato appunto un abuso, ecco, comunque che sia la sensazione dell'abuso, che sia la sensazione della simonia, in questo caso specifico, che è la permuta, però sempre relativamente ai benefici curati. Beh, poi per le altre cose si può dire molto brevemente che ovviamente i benefici, cioè i canonicati, sono quasi sempre appannaggio delle famiglie patrizie, mentre invece ecco, si può notare l'assenza di poverfiere, anche questo è abbastanza interessante, sia nelle chiese rurali, sia nelle chiese canonicate, insomma nei benefici maggiori, i forestieri sono veramente pochi. Poi tante altre cose che abbiamo detto, anche in questo caso il vicario è una figura molto importante, ruota tra le diverse diocesi, però quasi sempre diventa vescovo. Un'altra cosa forse che si può notare è che mentre il vescovo di Urbino non è locale, quasi mai locale, solo in alcuni casi, e spesso non è residente, ma qui ovviamente la figura del vescovo funziona da sostituto, nelle altre diocesi minori del Ducato ci sono vescovi locali. Herr Gemüller. Ich hätte vielleicht noch ein etwas allgemeines Problem. Wir haben sehr oft vom Missbrauch und Abuso gesprochen. Meine Frage ist, gibt es Kriterien für den Missbrauch? Was ist ein Missbrauch? Wir können, wie wir gesehen haben, ja nicht unbedingt von den Gravamen ausgehen, von den Klagen. Weil das aus der Sicht der Kurie ganz anders aussieht, als aus Sicht des Deutschen, der etwa die Klage formuliert. Da relativiert sich die Klage, indem man einfach die Funktion der Kirche und die Funktion dieser Dinge betrachtet. Auch das Problem der Simonie wurde öfter angesprochen, aber auch hier sind ja die Übergänge fließend zwischen den einfachen Taxgebühren, zwischen der Tertia Pensio oder der Bischofszahl, zwischen den massiven Bestechungsgeldern, mit denen dann einzelne Leute sich Ämter verschaffen. Die Übergänge sind aber auch hier fließend. Und auch da wird es also schwierig, den Abusus wirklich festzumachen. Nun könnte man sagen, das ist auch sehr häufig genannt worden, wenn die Cura dell'Anime, die Seelsorge verletzt wird, herrscht ein Missbrauch vor. Aber auch das ist ja nicht so. Denn es entsprach ja dem Wesen der mittelalterlichen Kirche, auch weltliche Aufgaben zu übernehmen. Und gerade die deutschen Reichsbischöfe haben ja sehr häufig auf die Cura dell'Anime verzichtet oder auch verzichten müssen, weil andere Aufgaben anlagen. Und ein anderes Kriterium könnte sein der Lebenswandel. War der Mann sittlich geeignet oder nicht? Aber auch das war in der katholischen Tradition eigentlich nie ein besonderes Problem, weil man ja seit dem Streit zwischen Augustin und Pelagius die Objektivität der Sakramentenspendung erfunden hatte. Das heißt also die Gültigkeit unbeschadet der persönlichen Qualität des Priesters. Im Grunde hat man auf diese Weise schon sehr früh das Problem des Lebenswandels gelöst. Und das verschärft im Grunde die Frage. Entweder war die ganze Kirche ein Missbrauch, un abuso della parola del Dio, oder es gab überhaupt keine Missbräuche, sondern nur Schwierigkeiten innerhalb der Funktion. Gibt es also historisch gesehen, also jetzt nicht moralisch gesehen, historisch gesehen eine Berechtigung von Missbrauch zu reden? Wenn wir nicht als Theologen, nicht als Moralpredier auftreten, sondern als Historiker. Gibt es da Kriterien? Sì. È un grosso problema, evidentemente, ma un criterio è quello della testimonianza dei contemporanei, un criterio è quello della definizione giuridica. Io mi sono attenuto al primo criterio, e la testimonianza dei contemporanei, ci sono naturalmente diverse testimonianze, diciamo, le testimonianze dei contemporanei, 4 o 500, vanno in due direzioni, come è noto. Un filone denuncia come abuso la mancanza di una cura d'anime corretta e quindi denuncia analiticamente come abusi dei dati previsti dal diritto canonico che non trovavano realizzazione nella prassi beneficiaria. Cardinali troppo giovani, vescovi senza gli ordini, preti senza preparazione, giovanissimi che diventano responsabili di cura d'anime. Quindi un filone di denuncia, di protesta, una serie di denunzie di abusi da parte dei contemporanei ha come oggetto la disciplina ecclesiastica, la disciplina e i costumi. È sostanzialmente quel filone che porterà poi al tentativo di riforma tridentina, che consisterà nel rimettere in vigore le leggi esistenti, nel rendere più stretti i controlli, eccetera. L'altro filone, come è stato del resto anche detto, è quello dell'abuso della parola, e qui troviamo Lutero e molti altri con lui, diciamo gli abusi teologici, e questo è tutto un altro tipo di discorso. Io registrando la denuncia di abusi nella direzione della disciplina, ho preso come esponenti soltanto, ho raccolto soltanto come abusi quelli relativi all'amministrazione dei sacramenti, alle denunzie più sentite nell'ambito dell'ordinamento vigente. Certo, quando si denuncia come abuso la stessa esistenza del corpus iuris canonici, il discorso cambia completamente. Anche l'esercizio di attività economiche da parte dei preti, per esempio, cioè, l'abuso che viene denunciato. Sì, viene denunciato anche questo. Certamente, cioè, mi pare che l'indicazione data dalla testimonianza, dalla coscienza dei contemporanei, con questa sostanziale biforcazione, da un lato i costumi e la disciplina, dall'altro la dottrina, ci permetta di seguire le scosse che la coscienza contemporanea avverte, il distacco che la coscienza contemporanea avverte tra l'offerta religiosa da parte della Chiesa, dell'unica Chiesa allora esistente e riconosciuta, e la domanda religiosa. Ecco, la domanda religiosa che si fa più sensibile, come è stato anche notato, in direzione della cura d'anime, della presenza del clero, di un clero preparato. Ecco, e qui certamente i sacramenti, la maggior parte delle proteste, delle richieste delle chiese locali italiane non riaprono più la questione della validità dei sacramenti o della validità o meno dei sacramenti a prescindere dalla moralità dell'ecclesiastico che li amministra. Però queste richieste si fanno molto più intense e molto più forti su determinati punti: la presenza in punto di morte del sacerdote, l'amministrazione della predica in maniera non scolastica, non retorica, ma vicina al testo del Vangelo, sia il fenomeno del paolinismo, dell'evangelismo. Ma questo è un discorso troppo più lungo. Non so se la mia risposta può servire. Io direi, molto spesso si presenta la situazione della Chiesa tardo-medievale come una situazione di una Chiesa in cui non ci sono le norme, non ci sono gli strumenti di controllo, non ci sono le norme. Questo non è vero. Come è noto, il diritto canonico aveva definito tutti questi problemi e esistevano in teoria gli strumenti di controllo. Solo che su questo interviene, in questo senso il discorso rientra nel mio argomento, interviene il funzionamento della curia e la larghezza di criteri con cui si amministra l'istituto della dispensa. Io avevo preparato per questa relazione alcune biografie di uomini di quest'epoca comparate, che mi sembravano molto eloquenti, per dire in che modo il funzionamento ormai senza controllo del meccanismo della curia e le esigenze finanziarie e il principio burocratico per cui l'esistenza di una burocrazia produce continuamente casi di questo genere, toglievano ogni solidità al diritto vigente. Si hanno storie di uomini che diventano frati in giovanissima età, poi ottengono la dispensa, se ne escono dall'ordine, diventano sacerdoti, di parroci, di parrocchie, poi abbandonano anche la parrocchia. Cioè si hanno biografie che sembrano una per una eccezionali, ma sono molto numerose, che mostrano come il meccanismo delle dispense curiali, delle dispense ottenute in curia a pagamento, togliesse in realtà qualsiasi solidità reale al diritto che pure esisteva e che teoricamente avrebbe escluso l'esistenza di casi di questo genere. Cioè, in questo senso appunto le esigenze finanziarie della Santa Sede e la proliferazione della macchina curiale fa sì che il diritto, pur continuando ad esistere fisicamente, viene però sospeso sostanzialmente su tutto l'arco del suo funzionamento. Ma questo sarebbe un discorso troppo lungo e comunque il problema è molto, molto interessante. Darf das meiste unterstreichen, was Sie eben gesagt haben. Ich freue mich, dass die Diskussion diese Wendung genommen hat, weil ich dazu heute Nachmittag vielleicht auch noch einiges sagen werde. Aber wir haben jetzt noch zwei Wortmeldungen, die wir, glaube ich, doch noch vorher erledigen können. Zunächst Professor Postocimi und dann Herr Stöhn. Io vorrei ritornare sul problema dell'abuso per dire che si potrebbe, specialmente dal punto di vista beneficiario di cui abbiamo parlato stamattina, sintetizzare in una brevissima formula. Il beneficio prevale sull'officio, cioè l'aspetto economicamente rilevante dell'ufficio ecclesiastico si sovrappone al dovere officium, che è il tipico dovere dell'ecclesiastico. Quindi si potrebbe sintetizzare dicendo che c'è questo di fatto, questo capovolgimento per cui l'officium che comporterebbe il beneficium viene messo in secondo piano e tutto è beneficio, non si fa altro che parlare di beneficio mentre si dovrebbe parlare di officio. Questo mi sembra una formula che spiega tante cose. E visto che Prosperi ha giustamente adesso richiamato il problema della dispensa, e questo è uno dei tramiti per cui il diritto canonico entra in crisi, perché attraverso questa fessura della dispensa, che dovrebbe essere una cosa eccezionale, si arriva a capovolgere le finalità di tutto l'ordinamento e quindi a creare, insieme alla, diciamo, alla plenitudo potestatis usata anche in forme abusive della sede apostolica, si creano tutte queste patologie di cui vero ci stiamo interessando. E visto che si è parlato di questa dispensa, vorrei ricordare che appunto la dispensa è un fatto eccezionale, ma si in un certo senso finisce per collegarsi con l'arbitrium, con la plenipotenza della curia romana di fare ciò che vuole.